Buonasera, sono in linea? No, linea con Radio Bubù. Ma con chi cazzo deve essere in linea lei? Scusi, me lo spieghi. No, con chi deve... ho chiuso la radio. Ma scusi, ma con chi dovrebbe... Sta parlando con me, sono Cruciani. Qui c'è il prezzo. Ma perché non legge un libro? Perché non legge un libro? Ma mi fa impazzire questa cosa qua. Perché non si legge il rapporto che l'Unione Europea ha fatto sullo stato di salute del governo di Orban? Sui diritti violati? Perché non legge? Aspetta, lei ha interesse a leggere il rapporto della Commissione Europea sui diritti di Orban, Roberto? Lei ha interesse? A me non me ne frega un cazzo proprio. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Quella meba senza condioni di Cruciani. Sì, questo è vero, questo è vero. Io sono incazzato nero, basta questo Covid che ha rotto coglioni. Per la prima volta dopo 4 anni mi fa passare il Natale senza chiavare. Cioè, questi spostamenti del cazzo, questo è un suo comuni, certamente. Regioni, io da 4 anni a questa parte faccio Natale Santo Stefano con la mia fidelizzata, va bene? E quest'anno che cazzo faccio, me lo dici? Oh, c'ha pure ragione questo, eh? O no? Allora, ho acceso la televisione verso le 18, c'era la D'Urso in onda con Cecchi Paone, Brossio, una medium, che parlavano di San Gennaro. Benissimo, una medium. Allora, anche. Vi dico come andrà a finire. Arriverà Maradona dall'alto, palleggiando, tirerà un colpo fortissimo, si scioglierà il sangue, Auriemma griderà gol e Mughini attaccherà Napoli. Ma io chiedo scusa. Quando io ero a 10 anni e ho assistito allo scioglimento, purtroppo la volta dopo non si è sciolto, era il 73, io andavo a scuola elementari a Napoli e ci fu il colera e ricordo che ci spaventammo tantissimo e fummo vaccinati, quindi come vedi l'emozione fu fortissima e fu anche negativa perché ci fu l'epidemia di colera. Ma io chiedo scusa. No. Mentre siamo ancora in attesa che il sangue di San Gennaro si sciolga, perché pare sia ancora solido e tutti i tentativi per ora sono stati vani, a Roma c'è sempre David Parenzo. Buonasera cari amici. Molto rapidamente al Bundestag, vi porto in Germania, dove il deputato tedesco con mascherina traforata le misure della Merkel, un deputato che appartiene al partito di estrema destra dell'FD dell'Alternative for Deutschland, aperta parentesi, partito forse alleato della signora Giorgia Meloni. Bene, il suddetto signore che si era fatto traforare la mascherina ora è in ospedale per Covid. A lui i sinceri, veri e più forti auguri di pronta guarigione. Dopodiché vada serenamente, quando da negazionista qual è? Una volta guarito il deputato tedesco con mascherina traforata contro le misure della Merkel, una volta guarito vada serenamente a fare in collegamento da Padova Alberto Gottardo. Ecco. È un momentaccio per quelle che Parenzo chiamava le destre. Pensa a quell'euro parlamentare ungherese che si faceva traforare il culo invece durante Il lockdown. Sono solo le 18:37. Io non ho intenzione di farmi traforare né il culo né la mascherina. E infatti scapperò da un Veneto sempre più rosso per andare a Roma questo fine settimana. Perché me ne sono rotto le palle di questi lockdown mascherati. Bloccatelo alla frontiera. Bloccatelo a Roma Termini. Allora, non c'è un lavoro. Sentiamo, no. Vai a scopare, diciamo la verità. Sentiamo i pressanti impegni. Sentiamo però, ragazzi, una che a mio parere. Non dici niente del deputato tedesco di Thomas Reitz. L'hai detto tu, l'hai detto. Non che cazzo niente. Devo dire? Ma zitto, l'hai detto muto, tu. Ma l'hai muto, detto il tu. Deputato negazionista non viene citato nella trasmissione. Ma l'hai detto tu. Scusa. Non citarlo, non citarlo. Siamo in diretta e non lo cito. Vabbè, non citare il deputato dell'FD. Alternative Deutschland. Io ti voglio dire, no. Alternative Deutschland. Alternative Coin. Giù, devono chiamarlo. Giù, giù. Allora, posso dire una cosa, ragazzi? È incredibile che il presidente della Francia, signor Macron, sia risultato positivo al coronavirus. Ve la dico. Beh, incredibile perché? No, è incredibile, ragazzi. Questo qua negli ultimi sette giorni ha fatto il giro delle sette chiese, ha incontrato chiunque. Ma cazzo, sei il presidente? Chiunque ha incontrato il premier portoghese a pranzo, i leader dell'Unione Europea, tutti di persona. Ma porca la gran puttana, sei il presidente della Francia. Sei il presidente. E c'hai una vecchia a casa. Hai una vecchia a casa. Hai una vecchia di 64 anni e passa a casa. La moglie. Ma la vecchia, la moglie, sì, la vecchia. Come fai a essere rispettoso della moglie? Deve stare attento alla vecchia che c'è a casa. Cazzo, una di 67 anni, posso chiamarla la vecchia oppure no? Perché la promiera. No, ma posso dirti non è, una cosa? Non è vecchia, 60 anni. Doveva stare attento. Sì. Allora, doveva sì. stare attento. Sarebbe già in pensione in Italia. Fermo là, doveva stare attento. Primo alla vecchia a casa. Vecchia in senso buono, naturalmente. Secondo, al fatto che il presidente della Francia dovrebbe vivere in un bunker. Cioè dovrebbe vivere in un bunker isolato da tutti. Cioè quello che dà le raccomandazioni di non vedersi, di stare distanti, eccetera, eccetera. E poi gira come un matto. Ma fai le riunioni via Skype, fatele in sicurezza con qualche sistema dei servizi segreti, non lo so. Ma la vecchia come sta? Ha visto a pranzo il premier portoghese. Ma come cazzo si fa a vedere a pranzo? Ma che te ne frega? Parlaci via Skype, via codici criptati, non lo so, fai qualcosa. È incredibile. Le stesse persone. No, ma le stesse persone, poi parliamo della vecchia, le stesse persone che ti dicono state distanti, fate questo, state attenti, state a casa, eccetera, eccetera, le stesse persone fanno il giro delle sette chiese e incontrano mezzo mondo. Parenzo, vergognati, ti devi vergognare. Ma no, cosa c'entro io? C'entro tu, vergognati, l'Abbrigliatori, so voglio perché. Sentire gli audio dell'Abbrigliatori. Quindi negazionista su negazionista, benissimo. L'Abbrigliatori, il presidente francese dovrebbe vivere in un bunker, isolato da tutti. Anche lui isolato. Ha abbassato la guardia. Poco prudente, ma vaffanculo, va, dai, Brigliatori, sentiamo. Io piuttosto mi uccido da sola come già mi sono uccisa che accettare di disintegrare il mio elemento spirituale al cospetto di questa medicina satanica che trova oggi i tamponi positivi dentro le lattine di Coca-Cola. Ma allora la medicina satanica. La medicina satanica, sì, la medicina satanica, cioè, è molto bella. Brigliatori come padre Livio Fanzaga. Io mi uccido piuttosto che vaccinarmi. Mi uccido piuttosto che vaccinarmi. La gente deve sapere che tagliano il genoma umano. Ci sono tanti modi per invecchiare, io dico, caro Parenzo, la libertà di espressione vale per tutti, ovviamente. Beh, anche certo. Per l'Abbrigliatori, non c'è dubbio. Per carità. Però ci sono tanti modi per andare avanti nella vita. Posso dire che con tutto l'amore, con tutto l'affetto, questa trasmissione è aperta a tutto, no? A tutte le opinioni. Però per parlare di medicina satanica, francamente no, francamente no. Perché le questioni del sangue, come quelle dei vaccini, come quelle delle mutazioni genetiche del CRISPR, che oggi opera senza che la gente sappia che cos'è il CRISPR, che cazzo è 19. Il CRISPR? Non lo so. Cos'è? Quello è un oggetto elaborato artificialmente in laboratorio COVID, che taglia il genoma umano. Boh, sarà il vaccino, che ne so. Vorrei vedere vaccinata quella merda di Bill Gates, caro Parenzo. Adesso vediamo se si risveglia. Questo che sta digitando con il cellulare, ci sta rompendo il cazzo. Ma vai a fare in culo. Sto scrivendo lavora invece di rompere il cazzo. Al deputato tedesco sto scrivendo dell'FD, dell'Alternative Deutschland. Oggi invece si premiano solo i servi del potere, quelli che dicono che si fanno vaccinare. Oggi vorrei veder vaccinato per primo, però col vaccino che prendo io, che era destinato a me, il signor Bill Gates. Ma quello se lo farà. Perché è lui che c'è dietro questa merda. Cioè, che distruggerà le generazioni, perché lui insieme a Rockefeller hanno detto Rockefeller. Che siamo troppi. Negando il fatto che la Terra è un organismo vivente. Perché Rockefeller? Ma io non ho capito, perché Rockefeller? Cosa ha fatto Rockefeller? È da mesi ormai che sentiamo, da quando è iniziato il Covid, oltre a costruire dei palazzi. Rockefeller. Ma che ha fatto Rockefeller? Che non è neppure Rockefeller, cosa ha fatto di particolare? Sai che posso rivelarti una cosa, che c'è un politico italiano. Ma cosa ha fatto Rockefeller? Posso rivelarti questa cosa? Non lo dico, non lo posso dire. C'è un politico italiano che è imparentato con i Rockefeller. è imparentato con i Rockefeller, sì, sì. Ma non lo prima dirà mai, poi lo dirà. No, non si può dire perché non vuole non che si dica. Può dire. C'è un politico non è italiano della sinistra, diciamo. No, beh, così. Adesso beh, sei un coglione, vabbè, però scusami. Ho capito, ma non è della sinistra. Ho capito, ma io ho fatto tanto per non dire un cazzo. Sei il primo che dici che non bisogna dire niente. Dell'estrema sinistra, diciamo così, non è dell'estrema sinistra. Non è dell'estrema sinistra. E dai, imparenta, chissà che cosa ha da dire sul fatto che da mesi pronunciamo la parola, pronunciano la parola Rockefeller associata alle peggiori nefandezze. Come sì, se guidassero il mondo, signori Rockefeller. Tu, per esempio, ti faresti governare più da Rockefeller o dalla Meloni, Parenzo? Questa è una bella domanda. Cioè, se tu dovessi scegliere, essere governati da Rockefeller Meloni. Bellissimo, però, questo è un titolo, libero, Parenzo. Che meglio Rockefeller della Meloni. Ma Rockefeller non governa in Italia. No, ho capito. Ma se tu dovessi scegliere se farti governare dal signor Rockefeller oppure dalla Meloni. Beh, sai, uno ha una visione molto internazionale, una visione però dillo chiaramente. Ho detto, uno ha una visione molto... Io voglio un italiano a guidare il mio governo. Preferisci Rockefeller o la Meloni? Cioè, se dovessi amministrare casa tua, a chi la affideresti? A Rockefeller o alla Meloni? Casa mia me la amministro io, però a casa tua a chi la faresti amministrare? Il tuo portafoglio, a chi lo daresti? Ma il mio portafoglio, ma è evidente, ma a chi? Scusa, a Rockefeller, ma anche a Soros, no? Meglio Soros della Meloni. Siamo arrivati a dire meglio Soros della Meloni, va bene. Se dovessi scegliere una scelta sulla scheda, Soros Meloni, su chi metti la X? Non fare il paraculo. No, in generale, governare Soros Meloni, la scelta. Vabbè, chi la metti? Ma è una domanda da non fare. Tira fuori le palle. Ma Soros, ricordo che Soros evidente. Ha speculato sulla lira. Cioè, Soros. Ma è evidente. Soros. Niente, non lo vuole dire. Ma è stra-evidente, non c'è neanche bisogno di dirlo. Pronuncia la parola Soros. Ma no, ma non da solo, però. Io lo vorrei assieme a Rockefeller, lo vorrei insieme a tutti. A Rockefeller, a Soros. No, Rockefeller non è ebreo. Bill Gates, anche Bill Gates. Cioè, il mio governo ideale sempre avrebbe Bill Gates, ministro dell'innovazione. Bellissimo. Bill Gates, ministro dell'innovazione. Economia Soros, all'economia Soros, sicuramente. Alle costruzioni, alle infrastrutture e opere pubbliche, Rockefeller. Perché mi sembra che Rockefeller su infrastrutture e opere pubbliche abbia fatto delle belle cose sostanzialmente alle infrastrutture, mi pare. Adesso non lo so. Presidente del Consiglio di un italiano. Presidente del Consiglio Draghi. Monti agli esteri, anche molto bene, esatto. Monti agli però esteri. Rockefeller, Soros dentro. Rockefeller, Bill Gates, se Soros tu dentro. Mi hai chiesto in un governo di tecnici idea. Ti ho risposto, in un governo di tecnici idea. Tu faresti il casalino? Tu faresti il casalino di questo governo? No, domine non subdigno. No, non sarei all'altezza di rappresentare con tanta. Domine non sum dignus, insomma. Barisoni che dice il programma che segue, perché non può dire la zanzara. È come Veltroni che non poteva pronunciare la parola Berlusconi e disse il principale esponente politico dello schieramento a noi avverso. Dai, alto e basso. La zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Con molta calma, pacatezza e tranquillità. Ecco Grillino. Volevo chiedere al ministro Speranza, al ministro Boccia, al premier Conte. Sì. Ma la febbre, la febbre, quella classica, quella che c'è sempre stata. Sì. Che fine ha fatto, caro ministro, cari ministri e caro premier? Fine dicembre, gennaio, febbraio. La febbre di chi dall'antica? Che cazzo di fine ha fatto? Vero, eh? dico, ma l'avete capito che ci sono questi curare con una minchia tutto quanto siete, vero? Non c'è più neanche l'influenza. Aspetta, gli italiani ormai hanno capito che volete portare il paese al collasso economico. Di noi italiani non ve ne è fottuto mai una minchia a tutti quanto siete, della salute nostra non ve ne è fottuto mai un emerito cazzo. Ora tutto un simbolo a diventare premurosi per la nostra salute, non è vero niente. Il vostro scopo è fare fallire l'Italia, maledetti, rotti in culo che non siete altro. Ma non ci riuscirete, non ci riuscirete, perché sono sicuro che gli italiani potete fare pure non a zona russa, a zona niura. Usciranno perché hanno capito il vostro giochetto. Maledetti figli di puttana, avete rotto il cazzo. Questo paese non lo distruggerete, l'avete capito oppure no? Figli di sua caminchia! Il ministro Boccia, siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo sulla chiusura. E noi italiani Grillo, siamo tutti d'accordo che prima o poi veniamo a rompere i coin, poi so dare un minchia siete. Voi capirete che avete fallito soltanto quando saremo lì fuori il vostro palazzo e dovrete scappare con gli elicotteri. Grandissimi figli di buttana che non siete altro. Questo paese lo volete completamente portare peggio della Grecia, lo volete fare diventare peggio della Grecia, ma magari vi riesce, però poi dovete scappare e non dovete mettere più un piede in Italia. Grandissimi pezzi di merda. Beh, c'è molta rabbia in giro, però io e Gottardo questa esasperazione la comprendiamo. Va compresa. Non giustificata, ma compresa. No, non giustificata. In alcuni casi è giustificata. Posso dirvi una cosa? C'è molta esasperazione. Non puoi dire andiamo sotto il palazzo. No, non puoi quella dire no. Scatterete con gli elicotteri. Ma va compresa. Va compresa. La gente non ne può più. La gente non ne può più. Che esplodono. La gente non ne può più. E soprattutto non ne può più dell'incertezza, perché tu non puoi dire chiudiamo, non chiudiamo. Beh, quello, quest'altro, zona rossa, come tre giorni, tutto il mondo due giorni. Si guardano i dati e in base a quello si no, decide. No, non dire cazzate, perché i dati sono sempre gli stessi da giorni. Quello. Non dire puttanate pro governo come al solito. I dati sono gli stessi da giorni. I dati sono gli stessi da giorni. Il problema è che non trovano l'accordo al governo e questo, allora, ovviamente, questo ovviamente è deplorevole. I contagi sono in calo, la curva si è già invertita. Che i contagi siano in calo adesso. C'è ancora la questo perché alcune zone erano in zona rossa. Ancora peraltro. La Brigliadori. Questo confermi perché alcune zone erano in zona rossa. Quanto ti piace la zona rossa? No, tu, per nulla purtroppo. Quando la sera vai a letto fai zona rossa, in continuazione, guarda, proprio non vivo per quello. Brigliadori, il Covid non ammazza neanche una mosca. Scusami Eleonora, ma tutte queste morti che ci sono in tutto il mondo. Ma quali dire? Tutte queste morti? Vai a vedere le statistiche del 2014. Beh, insomma, adesso per l'influenza. Ci sono 40.000 morti in più di quest'anno. Uguale. Finitela di dire stronzate e di comunicare come se fossero verità. Sono morti malati oncologici. Come la Brigliadori? Sono morti persone per altre la cause. Uguale, senti. Questo cazzo di Covid non ammazza neanche una mosca, tranne quelli che ne hanno bisogno. Come le lattine di Coca-Cola. Come quelli che ne hanno bisogno. Che la merda che la gente si beve a partire dall'America. Tutto la merda, no, la merda che la gente si beve. Però la detto Coca-Cola da quella che beveva l'urina, poi tra le altre cose. Beh, però dite le stesse cose, a parte lo spin-off americano. A parte lo spin-off americano. Ma tutta la prima parte è la stessa cosa che dici tu ogni giorno. Lo leggi sui rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità. Dici le stesse cose della Brigliadori. Ma infatti dici la stessa cosa di una che beve piscio. La stessa cosa, tranne la parte sulla Coca-Cola che ancora non ci sei arrivato a quello. Leggo sull'istituto, sui report dell'Istituto Superiore di Sanità. Il report non gli scrive la Brigliadori. Leggo l'età media dei morti, leggo i malati 79, oncologici, dici le stesse le cose patologie. Della Brigliadori. No, stesse. È l'Istituto Superiore di Sanità a dirlo, David. Svegliati. Le stesse posizioni della Brigliadori. Sveglia, per non dire sveglia, le stesse David. Posizioni del deputato dell'estrema destra che si è beccato il Covid, ovviamente. A cui va tutta la mia solidarietà e mi dispiace. Perché non vai a trovare il deputato dell'Atena di perché non lo porti in radio? Perché non porti Andrei in radio? Il deputato di Alternative Deutschland, fai una bella Andrei puntata, lo chiami Macron. E gli dici: sono Gottardo, nipote di un democristiano di Padova. Faccio un programma alla radio pieno di marchette. Faccio un programma con uno voglio che era nipote del COVID. Questore in un'epoca. Ti ho fatto, strana, no, questo era Cremona degli anni 80, nel 1989. Nell'89 era questore dell'89. Giù. Allora, il grande invito del ministro della salute Nostrano, signor Speranza, che ha diversi cazzi da risolvere, tra cui faide interne, un viceministro che dice che è tutto disorganizzato e che si devono mettere tutti. Tra un libro e l'altro, Speranza. Signor Speranza che dice non andiamo tutti nello stesso posto. Senti, senti il ministro. Vabbè, il nostro ministro della salute. Ma questo cosa vuol dire? Questa ma è una sciocchezza. Ragazzi, ma cosa su, vuol dire? Non andiamo tutti nello stesso posto. Che cazzo vuol dire? No. Appunto, ma il ministro della salute. Tutti. Ma no, ma questa è una banalità, ma non bisognerebbe neanche dirla. Purtroppo si realizza il contrario. Purtroppo lo dice. Purtroppo lo dice. Ma lo dice, ma non bisognerebbe neanche dirla, perché dovrebbe essere naturale. Senti come le slecchina Speranza. Ma no, ma ha detto una cazzata. Ma guardi, dobbiamo assolutamente evitarli gli assembramenti. È legittimo che le persone possano in queste ore anche fare acquisti, stare in giro, allora? Però dobbiamo evitare gli assembramenti, non andare tutti nello stesso posto. Quando una persona vede che c'è una situazione di luoghi con tante persone, deve provare immediatamente a evitarli quei luoghi. Ecco, io penso che questo sia fondamentale se non vogliamo poi essere costretti a ulteriori restrizioni molto dure. Scusa, sei lo stesso, è lo stesso ministro che ha approvato il cashback, cioè bisogna spendere di più per avere rimborsi? Nei negozi. Avete detto, avete scaglionato le uscite? Avete detto ai negozi di aprire solo, oppure avete dato libertà di aprire 24? Non lo so, ma avete fatto qualche cosa per evitare quelli che voi dite essere degli assembramenti pericolosi? È una banalità da dire, è una puttanata. È una puttanata. Gli assembramenti all'aperto, la gente che circola all'aperto con le mascherine e con i distanziamenti, non dovete rompere il cazzo, perché è la stessa cosa che avete sempre detto. Valerio da Londra, forza Valerio. Senti? Sì, dimmi Valerio, dimmi veloce, vai, forza. Niente, lo dico, stronzo di Valenza. Ma perché parla di Londra quando non è mai uscito dal ghetto? Che parla? Londra, veramente una città che conosco piuttosto bene, diciamo, ho viaggiato parecchio nella mia vita, per fortuna. Tutte le grandi capitali europee, sono stato più volte degli Stati Uniti, nel Medio Oriente. Credo che lei non mi possa insegnare, diciamo, in vabbè, materia di viaggi. Vabbè, che cosa devi dire, Valerio? Non ho capito. Cosa vuoi dire? Pronto? Vabbè, Eros da Vercelli, forza, sta zitto, niente, Eros da Vercelli, vai, Eros da Vercelli. Dimmi, Eros. Sapete perché Parenzo gli piace giocare col cellulare mentre sta zitto? Perché? Perché gli ricorda il cazzo di tranza a cui sto rispondendo su Twitter. E soprattutto, sì, Gianluca da Rimini, Gianluca da Rimini, vai. Chi era? Come si chiama questo qui? Però? Eros. Boh, non lo so, non credo fosse simpatico. Buonasera. Un coglione. Eros da Vercelli. Dimmi, di cui abbiamo il numero di telefono, però, sì, no? Assolutamente. Ah, perfetto, se vengono male così lo chiamo in privato. Dimmi, veloce, vai, veloce. Allora, essendo chef di un ristorante Cesenati, io ho preparato questa trefata come un antipasto. Come antipasto volevo mandare a fanculo Parenzo perché continua a dare a difendere il governo. No, sei e mezzo, continua a dare sei. Fermola. La Zanzara. Se vuoi parlare al telefono con Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare un facile messaggio coppa WhatsApp 393 71 71 701. Io mi chiedo sempre di più, chi cazzo è che vuoi prendere per il culo, coglione? Tu parli di libertà su delle leggi che tolgono la libertà. Chi cazzo, ma chi cazzo pensi di essere? Coglione! Tu è tutta una finzione. Tu sai benissimo come misurare le parole per accaparrarti consensi. Questa è una roba ridicola. Tu non sei un giornalista, sei un avvoltoio. Luciani, ti stai comportando da ottuso, tu e quel coglione di Gottardo. Se il ministro Speranza dice che non bisogna fare assembramenti, è perché i caproni di italiani continuano a ritrovarsi uno a fianco all'altro. E l'unico modo per tenere lontano questo virus è non stare vicini uno all'altro. E quella rincoglionita della Brigliadori, digli per favore che io ne conosco di gente morta di Covid, gente con altre malattie che magari sarebbe campata 2 giorni, ma magari anche 2 anni, e per le complicanze del Covid purtroppo è morta anticipatamente. Quindi non sparate cazzate, coglioni deficienti. Quando avremo sconfitto questa bestia maledetta, dovremo però andare a guardare dove è tutto cominciato. E tutto è cominciato, ce lo diciamo sottovoce in un'aula istituzionale, in un laboratorio cinese finanziato da alcune multinazionali senza nessun tipo di controllo. Non è vero. Questo è Salvini. È stato smentito dalla rivista scientifica. Salvini ha senato pochi... No, non è stato smentito. Come no? È una delle tante ipotesi. No, c'è uno studio. Ma lui lo dà per certo. Cioè, questo è il punto. Cioè, non è che è stato smentito perché nessuno sa l'origine. No, hanno Però lui lo dà per certo, ma non hanno isolato un cazzo. Come ma cosa no? vuol cioè, dire? Non scritto... dire cazzate pure tu che dai per certo cose che non sono certe. No, dai, io parlo tu. Di una rivista scientifica che è riconosciuta in tutto il mondo che ha smentito categoricamente questa cosa. Ti mando il link dell'articolo. Ma cosa c'entra quello che scrive? Ma cosa mica è la legge? Non no, è la legge. Ma è una rivista ma scientifica cazzo vuol riconosciuta dire? Della comunità internazionale. Scusami, però. Scusami, sennò Gottardo. È tutto discutibile. Gottardo, gli vuoi dire tu che le riviste, bene, allora le riviste non sono la Bibbia, per favore? Ma le riviste non sono la zanzara, ma se sono la comunità scientifica si riconosce in alcune autorevoli riviste. C'è chi ha sostenuto che abbiamo visto, li avete visti tutti i cinesi che mangiano i topi vivi. Almeno all'interno della Lega dovrebbero farsi chiarezza tra chi dice che sia un virus artificiale e chi dice no, guardate, erano i cinesi che mangiavano i topi vivi, ma poi anche sti cazzi. Scusami, ma perché? Perché se è un virus artificiale cambia qualcosa. No, è la stronzata delle multinazionali. È una stronzata dietro l'altra in cui si dicono le cose. Fermi tutti. Il grillino palermitano, ex grillino palermitano, il mitico Nino da Palermo, eccoci qui. Bravissimo, minchia, quando mi chiami grillino mi offendi, ma non l'hai capito che sono dei traditori, perché non mi accoltare più a questi elementi. Quella è la sua storia. No, per carità, per carità, quella è la sua storia. Quella è la sua storia. Quella è la sua storia, quale storia? Chiave, pezzi cretino, chi minchia. Quella è la sua storia, che bisogna fare? Chiave, cretino, stronzo, e tu la tua storia di leccaculo. Quella è la sua storia. Comunque, leggetevi lo studio di Nature Medicine, che a marzo del 2020 aveva già chiarito che confrontando i dati genetici ad oggi disponibili possiamo determinare che il SARS si è originato con processi naturali. La rivista Nature Medicine, andate a vedere, la febbre. E quindi questo diciamo, poi si può sostenere che le multinazionali tutto naturale, la febbre non è naturale, non lo faccio che la febbre pare, non mi dici niente di nuovo, è una febbre, è un'influenza. E stanno prendendo per il culo il mondo con la febbre, vero mio. Quindi di che cosa parliamo? Ma l'hai capito che l'Italia sta fallendo, vero Parenzo? Oppure no, poveretto chi? Ma stai tranquillo, questo. Tu sei complice di poveretto loro. Questo sono poveretto mesi e mesi questo, che ripeti questa storiella. Questo, ora poveretto, dopo fa parlare poveretto. Allora parliamo tu, di cose pronto. Serie. Cosa fai a Natale? Sentiamo, dai. Poi mi interessa ti un po' della tua. Ti vengono a faccia. Oltre a questo, cosa fai? Non va bene, ammettiamo che tu lo possa fare. Benissimo, arriva una sberla, ma poco male. Dimmi ma che cosa fai a Natale. Mia, dimmi cosa fai a Natale, gioia mia. Dai, raccontami, forza, così diamo un po' di spazio. Starai in famiglia. Bene, allora ammazza la donna. Ammazza la donna, così ci divertiamo. Saremo una ventina, una trentina di persone alla faccia. Benissimo. Di conto. Dove esattamente? Mi mandi i carabinieri? No, mandi carabinieri. Ma dillo, perché che ti frega? Fai la protesta non civile. Ti no, ma falla pure, alla luce del sole. Falla alla luce i... del sole la protesta a questo punto. Allora, sarete inventi dove? Di dove almeno? Così la tua protesta ha un senso. Se no, dici no, ci nascondiamo. Ma non ho capito che problema hai se Nino si vede con 20 persone a. Ma fammi capire, ma io non ci vedo. Ma io sono un coglione, se ci sarei un coglione, non mi capisco. È un coglione perché fa una cosa che uno non si può fare ed è pericolosa per la salute conta, sua e di tutti gli altri che poi vanno a infettare il giro. Ma no, Conte! Me lo dice il tuo amico Speranza, il tuo amico Speranza l'ha pubblicato un libro. Ma non è che lo dice Conte, lo dicono i medici, no Conte? Lo dicono gli scienziati, no Conte? Lo dicono gli scienziati. Tu pensavi che neanche ci sarebbe stata la seconda, figurati. La febbre, giusto? Non febbre. Ne può più. Nino ora non ne può più. Nino febbre. Incarna le persone che non ne possono più. Questo è il punto fondamentale. No, Nino incarna uno spostato. Per fortuna gli italiani non faranno cene con 20 persone. Sì, per fortuna. Ma Nino è un povero spostato. E secondo me i suoi parenti non lo vogliono vedere né durante l'anno. Figuriamoci a Natale. Perché se io fossi un parente di sto mentecatto, meno lo vedo, meglio sto. Perché fa fare una figura di merda a me. A tutta la mia famiglia. Invece lui si rende ridicolo, telefona qui e tutti lo pigliano per il culo in famiglia sua. Quindi figurati, l'unico ridicolo tu sei, coglione. Figurati se in famiglia ti vogliono vedere. Comunque. Ma qua siamo una famiglia numerosa, in Sicilia ci riuniamo tutti alla faccia, ti ripeto, di Conte. La mamma del grillino è sempre incinta, proverbialmente. Anche sarete sicuramente numerosi. Ma tu perché non ti stai zitto? Se devi dire queste stronzate, perché non stai muto? Povero coglione. I pidisci 30 kg ora state sì. Quanti anni hanno i parenti che lei incontrerà? Mi interessa. Quanti anni hanno i parenti che lei incontrerà? Nino si è rotto i coglioni del fatto innanzitutto che il governo non decide. Innanzitutto che il governo non decide. Secondo, li ha votati lui. Ma che tu, ma sempre la stessa cosa. Ma sempre la stessa cosa. Questo è verissimo, questo che le ha votato lui tu. È sicuro. E anche Cruciani, sì, l'unico che non li ha votati sono io. Io l'ho votati. E anche Cruciani li ha votati. L'unico che non li ha votati sono io. Parlavano male di tutti quelli ragazzi, che sono che non, io, l'unico che non ha votato i grillini sono io. Di che parlate? Sì. Cruciani li ha votati, tu li hai votati, basta. Adesso ma non me ne frega nulla di Conte, a me non me ne frega niente, io valuto le singole cose. Rimane agli atti che io non li ho mai votati, però mentre voi due li avete votati. Ma agli atti rimane che tu e Cruciani li avete votati, io no, rimane agli atti questo. Ragazzi, il punto, questo non c'entra un cazzo. Quindi vi siete sbagliati. Allora Nino, Nino sta dicendo un'altra cosa. Ma io non ho votato. Che la gente si è rotta. Sì, ma io non ho votato per i 5 Stelle. Allora, però, chi se ne frega? No, tu invece li hai votati. Chi se ne frega? Voti che avete sbagliato due volte. Come avete sbagliato quando dicevate che non ci sarebbe stata la seconda ondata? Ma chi se ne frega? Come avete sbagliato quando continuavate a dire che non c'era nessun pericolo? Avete continuato a sbagliare. Questo è il dato. Tu che parli sempre di riviste scientifiche, ma le riviste scientifiche, i soldi per fare quegli studi, di chi glieli dà? No, io però le di questo preferirei parlarne con Alberto Angela, non con te. No, tu forse non hai capito. Le riviste scientifiche da chi sono pagate? Cioè stai sostenendo che le riviste scientifiche sono pagate dalle case farmaceutiche? In alcuni casi è successo. E quindi vengono inficiati quegli studi? E quindi quegli studi non hanno valore. Ma tu come ti curi? Ma tu te lo fai il vaccino o te lo farai il vaccino? No, io lo faccio fare a Farenzo quello mio. No, non ho intenzione di fare iniettare sta porcheria. Grazie, se ve lo fai, se mi cedi la tua dose, grazie. Visto che la mortalità è così bassa, non vedo il motivo di andarmi a vaccinare io che ho 33 anni. Grazie, me lo faccio io. La tua me la faccio io. Grazie. Ti ringrazio sinceramente di questo. Ti ringrazio sinceramente. Ciao, ti abbraccio. Ciao. Attenzione Giuseppe, che è successo? Notizia da Padova, che è morto Donato Bilancia, aveva il Covid. Ah, adesso diranno che è morto per il Covid, naturalmente. Aveva il Covid, aveva il Covid e è morto Donato Bilancia. Era in carcere. Ma di che è morto però? Di che cosa è morto? Di che cosa è morto? Ascoltami, leggo, aveva il Covid, aveva nato nel 51 e non so, non Alberto sono mica Davarese. Medico personale. Non era ricchissimo. Alberto Davarese, vai. Alberto, nel 51. Dimmi. Giuseppe! Sì, dimmi. Allora, ma parliamo anche di questa Roberta Ricciardi che dice che il cortisone ha una formula. Chi è questa qua? Di chi stai è parlando? È una dottoressa, ma non lo so, Roberta Riccione. Ma non lo sai, informati. È Roberta Riccione, dice che il cortisone per il Covid è una panacea. Il Covid si guarisce col cortisone. Vabbè, andiamo avanti. Dunque, che vuoi dire, Alberto? Coadiuva la respirazione. Volevo dire, ma l'hanno detto anche altre persone. Voglio dire, il cortisone pare. Il cortisone pare, insomma, ce l'abbiamo tutti. Il cortisone respiratoria, certo. Certo, bravo, Alberto. Bravo. Vabbè, allora che vuoi dire? Studi al primo anno di medicina. Ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire con questo? Medicina è abbastanza comune, mi pare. Non è una cosa così strana. Cosa vuoi dire con questo? Spiegami. Che forse tu ti puoi salvare, ecco. Tu dici che ti puoi salvare al di là del vaccino, dici. Vaccino. Salviamo Cruciani, va, non dico Parenzo, ma dico magari. Vabbè, Alberto, vuoi aggiungere altro oppure no? Oppure va bene così. Ma ti droghi? Alberto, tu usi la marijuana? No, assolutamente, mai fatto. Sembravi in stato alterato. Michele da Milano, già mi ha rotto i coglioni, Alberto, vai. Michele da Milano, vai. Dimmi. Gottardo, il giochetto della marijuana ti fa sempre male comunque, cazzo. Sempre, ma, sempre, anche perché uno si vergogna di essere un tossicodipendente di solito. Quando tu domandi vai a puttane, non ho capito una cosa, chi usa la marijuana è un tossicodipendente. Siamo arrivati a questo. Chi usa la marijuana è un tossicodipendente. Molto spesso sviluppa una dipendenza da quella sostanza. Siamo arrivati a sta cazzata. Sviluppa una dipendenza da quella sostanza. Non esiste un tossicodipendente. Ma non c'è nessuna dipendenza dalle droghe leggere. Essendo la sostanza tossica, no, le droghe non sono leggere. Vabbè, Michele, allora anche voi dite. Ma non è vero, Cruciani, assolutamente, la distinzione esiste. Dimmi. Ce l'ho con te, Cruciani, perché la tua idea di libertà non è libertaria. Tipo, ieri tu hai avuto il coraggio di dire che uno Stato sovrano può fare quel cazzo che vuole. Più o meno è così, più o meno è così. Dipende che cosa è, naturalmente. Se mette in galera... Omosessuali. Certo, ma mica te li mette in galera. Sto dicendo che io... Ma è discriminazione! No, amico mio. Tu hai una vaga idea, un'idea molto, molto strana di discriminazione. Allora, se l'Ungheria mette in carcere gli omosessuali, è una discriminazione. Se l'Ungheria fa chiudere delle libere università, ma quello cosa c'entra? E per quello è stata stiamo la procedura di infrazione dell'Unione Europea. Che cazzo me ne frega adesso di quello? Perché fa chiudere giù. Allora, sto parlando di un'altra cosa. Se Orban, il Parlamento ungherese, decide che il matrimonio è solo tra uomo e donna, non c'è alcuna discriminazione. Ha detto questo. Come no? Non ha deciso questo. Una discriminazione. Decisione di un Parlamento sovrano. Benissimo, punto allora, e basta. Perché non sono perseguitati gli omosessuali. Quella sarebbe discriminazione. Non sono discriminati. Come no? Certo. Ci sono le unioni civili. È un'altra cosa. Vabbè, ma quello è un altro discorso. Sono i cazzi vostri dell'Europa, comparenza. A me non me ne può fregare di meno. No, loro hanno diritto all'Unione Europea. Ma chi se ne frega? La gente non interessa questo. Ma la gente hanno diritto a dei valori, no? Ciao, Michele, ciao. La zanzara. Gottardo è un prepotente coglione, licenziato e cacciatelo via. Non può dire che si vuole prendere il Covid, è un'offesa veramente all'umanità. Cacciate via questo stupido, è uno stupido. Gottardo via, fuori dalla zanzara, perché non può dire queste cose. Veramente c'è scassato, cazzo, veramente se può sci, se può trarre, se da ritirare, non può sci, voglia a scuola, no, non si voglia a scuola, potimmi fare salire, no, non voglio fare salire, a ritirare da casa, esci a casa, s'accordo, si mi sei, c'è scassato, cazzo! No, vabbè, solo per farti capire quanto porta sfiga Parenzo. Stavo ascoltando il podcast mentre guardavo la partita del Bologna per domani 2-1 con quella merda della Spezia. Niente, parlava Cruciani, gol, Eurogol di Barov messo nell'angolino, poi il rigore al 96esimo, poi interviene Parenzo, gliela parata, poi Parenzo fa gli ha parato anche la ribattuta di testa, ma porti proprio sfiga Parenzo, i miei maledetto. Migliori auguri, guarda. I miei migliori auguri col cuore di una pronta guarigione. Non è bello passare le vacanze di Natale con il Covid, quindi ti auguro di rimetterti presto, sai? Guarda, poi con la se ci fai finire in Serie B quest'anno, guarda, ti stramaledico perché alla tua squadra vado del direttamente cuore a prendere dei simboli esoterici solo per auguri te. Non farci finire in Serie B, ho detto solo auguri maledetto alla tua squadra del cuore sfiga. Auguri alla tua squadra del cuore, fatta con tutto il mio affetto, caro. Cioè, ma scusi un attimo, ma Pandolfi lì, Anidolfi, come cazzo si chiama quel ciccione brutto, schifoso, e non so come faccia quella povera donna a stare a letto con uno così che deve russare, scorreggiare, che neanche l'ippopotamo nella gabbia dello zoo di Mauro Orfei puzza così, deve fare una puzza, bisogna fargli le cose, le bagnature con gli stracci sotto le ascelle, dove tutto il grasso, madonna che schifo. Comunque, io volevo dire che una famiglia di gay, perché pure Froci, chiamiamoli anche Froci, che non è offensivo, come dice giustamente Cruciani, se fa zero figli non ti preoccupare, che tanto ci sono gli stronzi come Parenzo che ne fanno quattro. L'umanità va avanti lo stesso, non andiamo in via d'estinzione, coglione ciccione di merda. Certo che il rischio che ti venga fuori un figlio così effettivamente ti fa riflettere. Rider. È il miglior spot contro la fertilità. Il Rider, il allora migliore. Ragazzi, io voglio... No, Orban peraltro, tu hai detto, ha fatto approvare una costituzione in cui ha cambiato e ha ammesso che i figli devono essere educati sull'identità costituzionale nazionale e sui valori cristiani. Cristiani, sì, cioè, sì, quella se è una uno follia. È un musulmano... Quella è una follia, quella è una follia. Ma no, quello, per quello è stato ritenuto sospeso. Se Orban... Ragazzi, allora, non c'entra niente il Parlamento nazionale. Davide, scusami un attimo. Allora, Davide, scusami. Se tu mi vuoi cominciare qui a parlare dei rapporti tra l'Ungheria e l'Unione Europea, io ti chiudo il microfono. Ma è ovvio, ma stiamo criticando ti chiudo il microfono. Che tu hai detto è sovrano, può fare quel io che sto vuole. Dicendo ma un'altra, non è vero. Io sto dicendo un'altra cosa. Ma sto, non è vero. Vabbè, niente, non c'è discussione, dai. Non c'è discussione. Stefano ma, non può, ma ha fatto una cosa che teoricamente non potrebbe fare, ma che siccome il suo Parlamento può dichiarare. Ma chi l'ha detto? Ha deciso di aderire a una roba che non prevede quello. Giù, tutto tanto qua. Non c'è niente da fare, giù. Tanto non c'è niente da fare. Vuole parlare per forza di questo cazzo d'Europa. Non capisce il principio fondamentale che sto dicendo io, che ripeto all'ascoltatore di prima, per l'ennesima volta, anzi per la centesima volta. Ma non è così. Anche l'Italia, fino a poco tempo fa, no, non, sulla non stessa aveva norma. Alcuna legge. Ma lui ha fatto una legge giù. Diversa. Niente, non c'è niente da fare. Marco da Roma, dai, tanto vuole parlare di questa roba qua, è inutile. Tanto, ogni volta che vuole parlare di questa cosa lo abbasso. Marco da Roma, dai. Ciao, buonasera. Dimmi. Buonasera, senti, io volevo no, proporre... anzi, scusami Marco, stavo dicendo una cosa a Gottardo. Allora, siamo arrivati a questo. Senti questa roba, la dico a te perché tanto quell'altro non capisce. No, Natale, ma io ti dico questo, se per giù, caso... Giù, Natale in lockdown, in macchina solo in due, centinaia di pattuglie in strada per i controlli sugli spostamenti. Come solo in due? Ma nemmeno, io non ho visto questa cosa, cioè per combattere la 'ndrangheta, la camorra, non si mettono così di punta. Allora, ma senti, perché solo in due? Senti questa cosa, shopping a numero chiuso, questo è tutto nelle previsioni, poi vediamo che succede. Pattuglie a piedi con i megafoni per invitare la gente al distanziamento. Con i megafoni. Droni e telecamere controllati in tempo reale dalle sale operative per individuare assembramenti da disperdere. Aspetta, controlli serrati non solo in stazioni e aeroporti per le partenze di massa previste già da domani, ma anche negli autogrill, perché in tanti si sposteranno anche in auto, ignorando con tutta probabilità la norma che impone il distanziamento anche in macchina tra persone non conviventi, una per ogni fila di sedile con mascherina indossata. E in vista dell'ultimo dell'anno, una fitta rete di controlli fin da ora nei mercati e nei luoghi dedicati per evitare la vendita di fuoco d'artificio, eccetera, eccetera. Se devi far rispettare una norma, è giusto che tu controlli. Cioè, uno Stato serio lo fa. Siete una vergogna. Ma uno Stato serio fa una norma, controlla, no? Siete ma non una... è da Stato serio, non è da stato questa serio roba qui, cosa qua. Sulla, sul movimento delle persone, scusa. È da Stato di polizia, se, te lo posso se, dire. No, quando, tu metti, una norma per la quale non puoi spostarti da una parte all'altra, devi controllare che venga rispettata. Marco, dimmi. Allora, vabbè, innanzitutto c'è da dire che questo io in un mondo surreale, se non fossero degli analfabetici sarebbero che si sono formati all'università di Pyongyang, porca miseria, veramente. No, ma la roba che proibisce gli spostamenti all'interno di una città il giorno di Natale. Ma non neanche commentare. Non proibisce gli spostamenti dentro la città. Io, ma come se tu sei in 5 in macchina ti chiedono dove vai. Ma lascia perdere, quello va bene. Non sto dicendo questo. Sto dicendo semplicemente che dentro se la tu... città ti puoi spostare. No, ragazzi, no, la zona rossa non ti puoi spostare. Forse non hai capito ancora. La zona rossa, certo che Marco, no. Ovvio. Questi vogliono quello fare. È ovvio. Questo vogliono quello fare. È naturale. Ovvio. È ovvio un cazzo, Marco. Dimmi, dai. Dove devi andare? Allora, stai a casa. Pure festa, non devi andare a lavorare. È ovvio che stai a casa. Sto a casa. Proprio per opporci a queste azioni. Fammi i cazzi miei. No, io ho proibito. Poi uscire a fare una passeggiata non esiste più la libertà. Ma se sei in zona rossa, non no. Ma se sei in zona rossa, come durante rossa? Ma come? Non ci sono gli studenti che vanno a scuola, totale. Le fabbriche Marco, sono chiuse. Marco, dimmi. Eccomi qua. La curva ritorna sotto controllo. No, ma che cavolo, Parenzo, sta zitto un attimo. Mi sembra talmente chiaro. Allora, certo. Io proprio per opporsi a questa non direzione mi piace. Qua. Anche in Unione Sovietica era tutto chiaro, eh? Sì, cioè, anche in Germania orientale ma era che tutto paragone, chiaro. Dai, solo perché vuoi farti la vacanzina. Dimmi. Dai, su, state a casa, leggiti un libro e poi giù. Torni a lavorare. Marco, dimmi. Vado? Sì, dimmi. Vado. Niente, proprio per opporsi a queste insensatezze. Non so se si è sentito prima quello che dicevo. Questi, se non fossero analfabetici, sarebbe da pensare che si sono formati all'università di Pyongyang. Io sono per la formazione. Sarei per la formazione, per la creazione di zone autonome all'interno del paese. È un po' come sta succedendo un po' a New York. Marco, non so cosa vuoi dire? Sei già troppo lungo, già mi hai rotto il cazzo, che vuoi? Zonome in cui lo Stato non ha nessuna autorità. Vabbè, ciao Marco, ciao. Ma che ne so? Allora, Andrea Ruggeri di Forza Italia dice: non rispetterò il lockdown, mi multassero. Non rispetterò un DPCM lockdown, lo dico subito, me ne fregherò. C'è un limite a tutto, anche all'irragionevolezza. Mi multassero, non viviamo in Unione Sovietica né in Venezuela. E fosse per me, Forza Italia dovrebbe invitare gli italiani a non osservare il DPCM, a pagare loro i ricorsi contro le multe che verranno fatte a chi giustamente si ritiene in grado di vivere il Natale in famiglia, seguendo regole di prudenza, dopo che negli ultimi 10 mesi gli italiani ne hanno passati 5 reclusi in casa, dando prova di grande disciplina. Ha perfettamente ragione. La rivolta del Natale. Ha perfettamente ragione. L'economia e gli studenti a scuola. In un momento in cui tu sei a casa e non c'è ancora, voglio passare con prudenza il Natale dove mi pare, le scuole chiuse, non recluso in casa con la polizia fuori. Ma questo periodo per fare, come dire, per abbassare la curva, lo dice Crisanti, lo dice Ricciardi. Non è difficile. Noi siamo da per la libertà con la prudenza. Tu sei lo stesso che ha votato 5 Stelle che dicevi che non ci sarebbe stata la seconda ondata. Questo sei tu, quello che dicevi che non ci sarebbe stata la seconda ondata, che si è messo agli atti, così la gente se lo ricorda. Perché siamo completamente nella follia più totale. Il sovrano, cioè il governo che ci conduce in questo momento, ha deciso non che ci saranno che queste feste natalizie saremo agli arresti domiciliari. Staremo a casa e non potremo uscire di casa. Non so se vi è chiaro. La follia vera, ragazzi, ma che Natale, nessuno dice. Nessuno di dice che qual è il tuo esempio da questo punto di vista? Qual è il paese? Voglio chiedere a Parenzo una cosa. Non c'è la peste nera. Voglio chiedere a Parenzo qual è il modello cui si ispira l'Italia? Perché non esiste un modello simile. Qual è il modello cui si ispira l'Italia? Qual è il modello? Qual è il cazzo di modello? La Germania? No, ci si può spostare. La Francia? No, ci si può spostare. Qual è il modello di chi? Più dure. Il modello di chi ha avuto il massimo dei morti, Giovanni da Perugia, vergognati, esattamente questo. Giovanni da Perugia, e tu vuoi andarti a fare le vacanze di Natale? Io voglio la libertà, e tu vuoi farti le vacanze di Natale? No, io voglio rimandare i bambini a scuola e voglio riaprire le fabbriche. Mentre tu vuoi farti le vacanze di Natale. Incredibile, guarda, tu incredibile. Che sei uscito tutto l'anno, peraltro. Giovanni da Perugia, l'elogio degli arresti domiciliari, no, la libertà, l'elogio di riaprire le scuole. Ma che cazzo c'entra, Giovanni da Perugia, tutte puttanate. Dai, Giovanni, dimmi. Riaprire le fabbriche e rimandare le ragazze a scuola. Comunque, cretino, dai, Giovanni, no, assolutamente, caro. Dimmi, Giovanni. Allora, guarda, grazie per avermi fatto entrare nel circo, perché Confindustria è il padrone del circo e naturalmente sei il domatore. Manca il pagliaccio, ma quello è il signor Parenzo. Perché? Mi era simpatico, perché te lo spiego subito, mi era simpatico fino a poco tempo fa, poi da quando è intervenuto quel signor Francesco da Firenze, che lui ha passato oltre, perché è stata una persona fuori dalle righe, ma non vabbè, tanto ma cosa Francesco. Vuoi dire, Giovanni, non ho capito, cosa vuoi dire? Voglio dire che il signor Francesco, se tu mi farebbe piacere parlarci, perché io sono autotrasportatore. Fascista? Ma lasciamo perdere. Beh, insomma, un po' fascista sei, dai. Vabbè, diciamo di destra. Ti piace molto Sua Eccellenza, diciamo la verità. No, ultimamente no, non fareste giochetti, Cruciati, fuori luogo. Ho votato l'ultima volta, ho votato Lega. Volevo dire al signor Cruciani, al signor Francesco, che il 3 marzo, quando è successo il primo lockdown... Vabbè, ma che vuoi dire, Giovanni? Veloce però, dai. Voglio dire che questi sono loro uomini sessuali, come un amico di mio figlio Ciuffetti, non lo vuole ammettere, vanno sempre cercando il pelo sull'uovo. Non si può permettere di insultare un poraccio che sta lavorando, dicendo vai a sbattere su un guardaraglie, vai a fare questo e vai a fare quello. Tu devi sapere che oggi il trasportatore, il camionista è formato, facciamo il corso sull'infortunistica, facciamo i corsi sulla guida sicura. Giovanni, che vuoi? No, io voglio che Francesco, vuoi? Ma vuoi con quel Parenzo che lui fa tanto il perfettino. Ciao Giovanni. Allora, Oggi la signora Martani era a Mediaset stamattina e ha detto alcune cose. Poi a un certo punto le hanno tirato giù il microfono, come faccio io con Parenzo ogni tanto, ma io lo faccio naturalmente un po' per scherzo qualche volta, un po' perché certi discorsi mi rompono i coglioni. In questo caso quello di Orban, ad esempio. Ma figuriamoci. Se Orban decidesse che non si possono sposare persone di colore differente, sentite che è successo. Siamo semplicemente, perché mi ci metto anch'io, perché io fino adesso comunque non mi sono limitata nel vedere i miei amici, abbiamo fatto pranzi, cene e per fortuna non è mai successo nulla. E voglio dire alla signora che a casa tua, lei, a casa degli amici, a casa tua, tu sei nel a casa degli amici, Lazio, zona gialla. Volevo dire che io ho 3 casi in famiglia di persone che hanno il Covid. Mia sorella ha il Covid, mio nipote ha il Covid, mio zio ha il Covid. L'hanno superato tranquillamente. Mia sorella è stata asintomatica e l'ha superato. Mio nipote è asintomatico. Mio zio, nonostante abbia 75 anni, è un mieloma, quindi una malattia insomma, abbastanza grave, è asintomatico. Quindi con tutto questo terrorismo sul Covid, io dico però ci sono 700 morti. È una malattia dalla quale è una malattia, un'infezione dalla quale si guarisce. Il concetto della morte non può essere toccato. Vabbè, invece, capito che discorso è, dai. Ciao Daniela. Torniamo in studio. Scusami, non è che si può dire siccome si muore allora facciamoci gli affari nostri, andiamo a 300 all'ora in autostrada. Non si può vivere con la paura di morire ogni secondo. Ho capito, ma questa è una malattia molto contagiosa che coinvolge molti guariscono, ma molti no. Ma fino adesso sono morte nel mondo 8 milioni di persone. Ma quest'anno sono morte 65.000 persone in Italia. Ma che stai dicendo, Daniela? Ripigliati. Ma che stai dicendo? Sto dicendo la maggior parte delle persone che conosco io che si sono. Ma che vuol dire se la maggior parte guarisce? Ma che vuol dire se la maggior parte guarisce? E allora? Vuol dire che è una malattia che ha una bassa mortalità. Beh, ho capito, ma vallo a dire ai 65.000 parenti di quelli che hanno perso un loro caro. Ma che vuol dire? Anche se ha bassa mortalità. Ma che vuol dire? Anche se la minoranza muore, è una minoranza importante nel nostro paese che va tutelata, è una lotteria che non possiamo permetterci di giocare, non possiamo comprare il biglietto della lotteria per sapere se uno vive o muore. Ma che discorso è, Daniela? Dai, per favore, speravo che fosse più razionale la tua difesa a chi vuole. 2.000 persone al giorno in Italia, scusami, 2.000 persone ogni giorno muoiono in Italia, capisci? Anche di altre malattie. Non aggiungiamoci quella. Allora, ragazzi, questo è lo scontro di questa mattina tra la Martani e il conduttore di Mattino 5. Allora, sull'internet, caro Parenzo, c'è un signore che si presenta, si chiama Antonio, non dico il cognome, con una divisa della Guardia di Finanza. E c'è scritto. Scrive tra le tante cose su un network russo: non riesco più a vedere mio figlio nella condizione di avere la sua attività ferma e di vedere lui che sta morendo giorno per giorno. Ucciderò io per lui, basta. Da segnalare alla polizia. Con una pistola, sì, con una divisa. Allora, noi ci siamo procurati il numero di questo signore. È da segnalare il numero di questo signore. Assolutamente. Ovviamente noi possiamo discutere quanto vogliamo e discutiamo sulle misure prese dal governo, sulle ricadute economiche, quello però che volete, naturalmente. Ma vedi la rabbia, è ovvio che ci può essere il massimo dalla violenza verbale, come dice Sgarbi, ma ovviamente nessun tipo di violenza fisica. Noi siamo contro qualsiasi violenza. Ma se si dicono ste cazzate, poi vedi che c'è quali qualcuno. Cazzate? Questo qua dice di essere pronto. Chi governa è un criminale. Allora, io credo che le forze dell'ordine, ma tanto lo faranno in automatico. Allora, lo abbiamo chiamato, ma lo dico subito: non lo chiamiamo adesso, l'abbiamo chiamato nel pomeriggio. Questo è il risultato. Pronto? Antonio? Chi è? Come stai? Sono Cruciani. Cruciani? Sì, dimmi. Senti, io ho letto una cosa che hai scritto su quel network russo. Ah, ho capito. Ma tu sei un militare o un ex militare? No, sono un ex militare adesso. E dove eri? Nella Guardia di Finanza? Guardia di Finanza, sì, ma io mi sono messo tranquillamente così. Non mi va di nascondere, sai. Sì, no, ma per carità, infatti. Però voglio dire, tu hai scritto: non riesco più a vedere mio figlio nella condizione di avere la sua attività ferma e di vedere lui che sta morendo. Sì, beh, insomma, uno la dice forte. Però hai detto ucciderò io per lui, basta, con una pistola. Certo. Ma che vuol dire certo ucciderò io per lui? Che vuoi uccidere? Chi vuoi uccidere? No, speriamo che non capiti, non ammazzerò nessuna persona. Ma ho capito, però scusami, quando uno dice ucciderò io per lui, aspetta, basta. Aspetta un attimo, scusami. Prego, con chi stai? I nipotini, chi sono? I nipotini, che ti... Sì, aspetta, Mattia, madonna mia, scusami. Sì. Allora... Io devo fare velocemente, scusami se ti faccio perdere 5 minuti, ma... Dimmi. Allora, la mia famiglia ha dato, mio padre ha fatto 2 guerre, non era un militare, era un cittadino comune. Era più grande di me, si fece la 15-18 e la seconda guerra mondiale. Mio zio era un poliziotto, non era tessere di fascio, meno tutta ucciso. La storia della famiglia. Aspetta. Che insomma, là, ragazzo mio, è tutta una storia di una famiglia. Ecco, abbiamo sempre cercato di rispettare i giuramenti, di rispettare le regole, ma arrivato a questo punto io non è che ci sto più tanto. Ma tu hai scritto io ucciderò. Certo. Ma chi devi uccidere? Chi vuoi uccidere? Non te lo dirò mai, non è che ammazzo il primo perché che passa per caso. Ma lei è una persona pericolosa, però. Ragazzo, dimmi quello che vuoi, però l'esasperazione arriva. Ma come dimmi quello che vuoi? Lei sta commettendo... Ma tu le armi ce le hai, pericoloso. Antonio? No, non ce l'ho. Ma quando dici ucciderai, io pensavo fosse uno scherzo, invece tu mi stai dicendo sul serio che sei esasperato per tuo figlio? No, sono esasperato di vedere chiudi, non chiudi, apri, non apri, fai questo, fai quell'altro, le tasse, le tassazioni ci stanno, gli aiuti sono... risibili. Poi, ho capito, ma la critica vanno bene, ma da qui a passare all'azione e dire ucciderò, amico mio, quello ucciderò e ucciderò. Senti, sai quante volte sono dovuto passare all'azione quando ero in servizio? Anche se c'era qualche cosa. Ma tu sei sicuro che non hai più armi? No, ma tu stai scherzando. Ho capito, ma come fai ad ucciderlo? Con un doppio bypass al cuore e... con la valvola aorta che è partita. Però scusami Antonio, tu non è che pubblicamente puoi scrivere come hai scritto, come stai dicendo adesso? No, guarda che quello comunque era su un gruppo. No, ma ho capito, ma noi scusami, dire? Antonio, lascia perdere, è pubblica come cosa? È pubblica. Va su bene, ho capito, è diventata pubblica. E poi stai dicendo anche adesso, qui da me, stai dicendo non riesco più a vedere mio figlio, eccetera, e stai ribadendo che ucciderai. Ma tuo figlio che cosa c'ha? Ucciderà è una forma molto... Ma me l'hai detto tu adesso sì. Sì, ho capito, ma è una forma molto stereotipa comunque. Senti, ma chi sono quelli da uccidere secondo te? L'elenco è lungo. Ma secondo te c'è una dittatura? Non ho capito, una dittatura sanitaria? Sì, io ritengo che sia una dittatura sanitaria. Allora, per sentire, quando mi dissero che dovevo essere operato ancora urgentemente, però mi hanno spiegato com'era la situazione qui. Questa situazione qui non, cioè, questo ma il cuore mi sembra uno spostato chiaro. A me questo qua. Scusa, tu hai scritto rivolta. Ho detto che mi sembra uno spostato più che l'operazione al cuore. Mi sembri un po' uno spostato, se posso permettermi. Vabbè, quello che vuoi, guarda, puoi pensarla come vuoi. Questa è Parenza. Questa è Parenza. Rivolta, tu hai scritto rivolta e guerra contro questa dittatura. Certo, dittatura sanitaria. Sì, ma rivolta e guerra. Scusami, Antonio, tu dove sei? In provincia di Brescia? Dove sei? Dove abiti? Bergamo. In provincia di Bergamo. Io non manco dico, io non ho nemmeno detto il tuo cognome e non ho nemmeno detto dove abiti esattamente. Allora, o sei un fake, assoluto, ma non credo. Sei in carne, una persona in carne e ossa. Oppure uno che scrive pistola, io ucciderò, rivolta e guerra contro questa dittatura, ti esponi poi le conseguenze del caso, lo sai. Ah, vabbè, lo so che vado in galera. Ma non lo so, uno che scrive rivolta e guerra contro questa dittatura, tu stai incitando alla rivolta e alla guerra, peraltro sei un ex della Guardia di Finanza. Ah certo ragazzo, io mi sento stanco, mi sento stanco, ma non è che minaccio in giro. Sì, sono stanco. Ho capito, non è che se uno è stanco minaccia di uccidere qualcuno. Tuo figlio ha un negozio, sta fallendo, qual è il punto? Lasciamo perdere, io ho capito... che voi fate giustamente una ricerca, il vostro lavoro. Io ho scritto quello che ho scritto. Una cazzata, basta. Una cazzata. Questo lo dirai tu. Se uno minaccia di uccidere qualcuno, mi pare di sì, no? Va bene, come va bene? Non va bene, va tutto male, no? Bene, va bene. Ma ci sono dei... Ma c'è qualcuno che ha tradito, ci sono dei traditori che vanno puniti, che vanno giustiziati, che ne so? Senti, ce ne stanno tanti, io ti saluto, grazie della telefonata. No, non c'è grazie. Grazie a niente, grazie nulla, gravissimo, non c'è neanche da ridere. Va bene, senti, non va bene. Non portate all'esasperazione ulteriore, va bene? No, ma lei è esasperato. Da cosa? Chi è esasperato? Tu o tuo figlio, poi? Non ho capito. Grazie di tutto, arrivederci. Non c'è grazie. Antonio? La Zanzara. Comunque io non ho mai visto uno più filo governativo di Parenzo, mamma mia. Persino Imre gli farebbe una pippa. Beh, a propaganda. Parenzo, e che cazzo, sei sempre d'accordo con sto governo? È bello perché loro non sono d'accordo su un cazzo, ma tu sei d'accordo su tutto. Dai, papà Renzo. Sulla questione di fondo della chiusura, sì, certo, poi su questo posso non essere d'accordo, ovviamente. Hanno fatto il tampone se arrivare a Parenzo, quello rapido. E hanno trovato positivo ai peli del culo di Cairo. Mamma mia. No. Ieri l'ho fatto il tampone. Ah, pensavo che avessi leccato il culo ieri a Cairo. Ho fatto ieri il tampone perché devo andare a Padova. Tirandosi dei peli fuori dalla bocca. Allora, ragazzi, due cose. Una, voglio annunciare per chi avesse voglia. Non so se conoscete voi i gemelli, grandi gemelli. Hanno realizzato il policlinico gemelli. Sì, quella è un'altra cosa. I gemelli hanno realizzato, sono due signori che sono effettivamente due gemelli che hanno realizzato, realizzano ogni tanto dei troni. Hanno realizzato anche un trono per Papa Francesco, hanno consegnato un trono con l'effigie di Papa Francesco e anche con l'effigie di Maradona, con l'effigie di tante persone, eccetera. Questi gemelli vogliono realizzare il trono della Zanzara, il trono di Cruciani. No, mi è venuta un'idea. Sì, qua al posto di questa sedia del cazzo su cui mi siedo ogni sera, toccata da tutti, quello chi se ne importa, ma toccata da tutti ogni sera. Dovrebbero essere gli altri che si lamentano di mettere il culo dove lo metti tu, che non ti cambi le mutande. Quello può essere. Quello può essere. Voglio sedermi su un trono ogni sera, su un bellissimo trono. Allora, invito gli ascoltatori a mandarmi una grafica, la grafica che loro vorrebbero su questa sedia. Su tre parti, dietro, davanti e proprio dove ci si siede, no? La parte davanti, la parte dove ci si siede. Se voi mi mandate le vostre idee su questa grafica, io vi ricompenserò, cari amici. Lo dico ai gemelli, ricompenserò la grafica vincente. In che modo? In che modo? Con due puttane del welcome. Cioè, offro. Devi fare il magnaccia. Offro al disegno vincente due puttane del welcome. Il corrispettivo, volete andare a welcome? Ti pago il corrispettivo per due puttane. È una forma di fuckback. No, di cashback, diciamo, di cashback. Beh, insomma. Allora, Yuri da Brescia, vai Yuri, dimmi. Comunque, ragazzi, mandate le vostre grafiche, la Zanzara @radio24.it, via. Vai, forza, dimmi. Ciao a tutti. Dimmi. Volevo dire all'ebreo Parenzo di non venire a dire a noi cristiani come dobbiamo passare il Natale. Questo pure è giusto. Che nessuno gli dice deve passare le sue feste. Forse d'ebreo. A parte i suoi toni che mi inviterebbero a mandarla a fare in culo in 40 secondi. Però accetto la sua conversione. Ma fare in culo e toni sono accetto toni normali. Se una livello, donna, accetto, un uomo, fai l'uomo. Non ti sta insultando. Ha usato i toni dispregiativi, ma accetto. Ma no, non ha detto. Se me l'avessi detto così gli avrei sputato in faccia con una sberla annessa. Con non una sberla, se uno mi dà il così, do una sberla. Calma, se ti vedo per strada, se me lo dici così, ti do una sberla annessa e sono serio. Non mi piace il fatto che venga detto in questo modo. Quindi, ti ho detto che se tu me l'avessi detto in un altro contesto, te l'avrei dato una sberla e te lo giuro, te l'avrei data in faccia una sberla, poi mi avresti denunciato, ma te l'avrei data perché questo tono e questo modo di fare la cosa mi dà molto fastidio. Ma è un problema mio, mio, non ti preoccupare. Quindi se me lo fai qui alla radio, accetto, dico che sei una testa di cazzo, ti mando a fare in culo e ti rispondo. Bravo, non sono io. Non sono io. Perché parla, ti dico, ad esempio, parla come cittadino, sì, mica parla, a me non me ne fregano, a me figurati, per me le feste sono feste sacre per tutti. Ti faccio solo un altro esempio. In Israele, ad esempio, quando c'erano le feste ebraiche di ottobre, il governo hanno ha deciso uguali al Natale, pari di stesso valore, diciamo, il famoso Capodanno che viene preso in giro, hanno chiuso per 3 settimane il paese e hanno detto paese ebreo, sì, esatto, e hanno detto era la festa più importante, era la festa più importante, hanno deciso, è la festa in cui uguale si incontrano i nonni con i nipoti, hanno deciso di chiudere il paese. Vabbè, allora? Ok? E allora? Ora qui un governo che decide di chiudere il Natale non lo fa perché è contro il Natale, nessuno è contro il Natale. La ma Merkel, detto il governo, non, ho detto te, non è co- ho detto te, ho fatto tu, non ho detto che tu non ci devi venire a dire come condivido, devo passare noi il Natale. Condivido, e non puoi venire a dire dovresti stare chiuso in casa. Ma condivido chiuso in casa cosa? Ma fatto, quel pranzo, voglio andare a condivido il non fatto che siccome tu, c'è dici? Una pandemia Natale, o no, come ha detto ma Claudio Amendola, che sicuramente se non è ebreo, chi se ne frega in questo caso del Natale, cioè o del Capodanno o della Befana, chi se ne frega della Befana, non è una questione di religione, è una questione, è una questione di pandemia, non di religione. Chi se ne frega del Capodanno, ti ho detto io, infatti, chi se ne frega del Capodanno, chi li ripaga, quest'anno, i gestori, i bar, gli alberghi, non anziché festeggiarlo come faccio in genere con feste da 40-50 persone, perché io organizzo feste da 40-50 e passa persone, quest'anno non lo faccio, hai capito? Sti cazzi, te lo dico io, Iuri di merda. Poi un'altra cosa dei vari generi del comitato scientifico, i tifosi del governo, esatto, come Parenzo, sì, quando è che la smetteranno di mettere i malati a casa isolati con i familiari che stanno bene? Sì, sì, giusto, giusto. Ciao, ciao. Che hanno aperto gli alberghi Covid. Ciao, ciao. Mi hanno scritto: se una ragazza vince il premio per la grafica della poltrona della zanzara, è vero, è vero, è vero, non è un incentivo, non è un incentivo, non è un credo incentivo. Sia un incentivo a fare delle cose accettabili. Allora, ha detto che se ne sbatterà delle norme sul lockdown duro, se mai ci saranno queste norme, come sembra domani, eccetera, che vuole fare una festa a Piazza del Popolo, bisogna andare tutti a Piazza del Popolo, che fa le feste comunque in casa, che si riunisce con 10-20 persone dentro casa. Daniela Martani, eccoci qui, cara Daniela. No, sì, Daniela Martani. Buonasera. Allora, dimmi. Che succede? Ma chi vuoi che vada a festa a casa della Martani? Chi andrebbe a casa della Martani infestata dai gatti? Infestata dai cani in casa della Martani? Intanto non ho detto casa mia, ho detto che ci si può incontrare tutti quanti. È stato un anno di merda e lo devo chiudere con Martani. A Piazza del Popolo il 31 ci si incontra tutti quanti e si festeggia, capito? Perché credo che festeggiare Capodanno in una piazza enorme, dove non si creano assembramenti, si possa fare. Non ho capito per quale motivo fino adesso andiamo in giro, siamo sempre andati in giro, fino adesso non ho capito per quale motivo in quei giorni non si può uscire, capito? Allora, fino adesso la gente è andata a mangiare nei ristoranti e no, il 24 e 25 e 26 no, devono chiudere, non ho capito questa per quale motivo. Questa è una follia, infatti questa è una follia. Follia. Ieri sono stata a pranzo in un ristorante vegano di una mia amica, che la quale mi ha detto: io non so se devo rimanere aperta il 25, se ho già le prenotazioni, se questa cosa non succede devo buttare tutto quello che ho comprato fino adesso. Vabbè, questo è un problema vero, ma mi sembra una cosa normale sta roba, dimmi se è una cosa normale. Ma scusa, spiegami una cosa, Daniele, spiegami una cosa molto semplice. Ma per te le frasi che ha detto l'altro giorno quello della Confindustria di Macerata, che ha detto: beh, purtroppo ci saranno i morti, più o meno è quello che dici tu, cioè usciamo, viviamo, purtroppo ci saranno i morti, questa mattina hai detto quello che ho detto stamattina. Cioè, tu l'hai visto stamattina? Sì, ho visto. Cioè, la stessa cosa che hai detto stamattina. Cioè, tu hai detto più o meno: vabbè, ragazzi, tanto comunque i morti ci stanno, no? Ma cioè, si muore. Vogliono 2000 persone al giorno, no? Più o meno in Italia, dici, in generale, 1700 circa. Tu dici 100 in più, 100 in meno, chi se ne frega? Dici 100 ma in più. Non è quello il discorso, non è il fatto che uno non se ne frega dei morti. Attenzione, questo è un argomento molto delicato. Comunque quando si parla di morte sembra che chissà che caspita di argomento è toccato. Cioè la morte è un passaggio della vita della quale saremo tutti protagonisti, cioè capisci? Su questo, guardi, su questo okay. Meglio benissimo. Diciamo okay, allungare la propria vita, visto che si vive fino benissimo, a oltre 90 anni piuttosto che morire a 60, casa, no? Allunghi la tua vita, poi ci sono alcuni casi in cui la morte fisico, mai fu più, più propizia, diciamo, alcuni casi. La malattia non è soltanto fisica, la malattia è anche psicologica e nello spirito, perché la gente si ammala anche di depressione. Questo siamo tutti d'accordo. Ieri si è ammazzato un uomo di 52 anni a Padova che aveva perso la sua suicidio. E poi aveva trovato il lavoro e aveva perso anche il lavoro e ha detto vabbè, non c'è più niente speranza e mi ammazzo. Ma sai quante persone così? Sai quante persone non e vergognati, Parenzo, vergognati. Non sostiene questa cosa, cosa vuol dire? Certo, purtroppo è chiaro, succede. Cioè, quello che è successo stamattina a me mi ha fatto riflettere, perché quasi sembra che le persone non vogliano essere rassicurate sul fatto che questa infezione, questo virus, chiamalo come ti pare, malattia, in realtà determina un numero di morti che è bassissimo, perché la percentuale... Scusami, Daniela, tu il 25 che fai? Il 25 che fai? Te ne sbatti i coglioni, esci da casa e vai magari da qualche amico, da qualcuno, diciamolo. Guarda, subito. Allora, io mi sto organizzando insieme all'avvocato Fusillo, Alessandro Fusillo, che è il mio avvocato che mi sta insieme al tuo avvocato? Multe. Sì, sì. Che Alessandro fai? Fusillo. Ci stiamo organizzando per capire quale sono. Sì, si chiama Fusillo. Si può chiamare Fusillo. Il mio avvocato che mi sta difendendo per l'amore della barilla, no? Allora, vabbè, dai, avanti, andiamo avanti. Stiamo cercando di capire come fare per poter uscire. Ma come fare? Uscite, basta. E vi multano, arrivederci, grazie. Lui comunque... Ma tu violerai questa roba, questa norma? Qualcuno già lo dice, io violerò la norma che non si può uscire da... Io l'ho fatto fino adesso, ma ti pare che mi sono sempre mai limitata. Io sono sempre uscita, noi abbiamo sempre fatto feste nelle case. Dunque, a Natale esco, me ne sbatto i coglioni del DPCM se ci sarà contro il lockdown. Assolutamente, perché non mi faccio... Fermo, Daniela Martani contro tutti. Francesco da Firenze, avanti tutta. Francesco, dimmi. No, vabbè, dai. Aspetta, ferma. Aspetta. Non attaccare, perché Francesco... Devi attaccare, Francesco, dimmi. C'ha paura di Francesco? Io non voglio sì, ma che volgare. Non sarà volgare, ma educato. Aspetta. Guarda, appena dici una parola fuori posto io attacco. Ma te lo chi dico. Sei la regina d'Inghilterra? Capone il censore, fai tu, non ti preoccupare. La regina d'Inghilterra, Cruciani, io vorrei capire perché tu ci devi sottoporre oramai con una cadenza di due volte alla settimana, cosa secondo me molto sospetta, Cruciani, molto sospetta. Vorrei capire perché tu ci devi sottoporre a questa tortura di sentire la Martani parlare di una pandemia che come si fa. Che è come parlare con Parenzo di scoregge vaginali, esatto. O con Gottardo di calistenica. Non capisco perché dobbiamo parlare della Martani, della sua opinione sulla pandemia. Io mi chiedo, bravo, Francesco da Taranto. Bravo Francesco da Taranto. Grazie Alberto, nipote del sindaco, satrapo della regione, certo. Pandemia, io vorrei capire ha ragione però la Martani, siccome l'altro giorno si parlava di Fedez e devo dire ero d'accordo sia con Gottardo che comparenza, c'è una maniera sbagliata di fare beneficenza, lo penso anche io. Soprattutto anche il Codacons lo pensa, siete insieme al Codacons. L'orologio rotto. Comunque, la maniera più sbagliata di fare beneficenza è escludere quelli che più ne hanno bisogno. Perché Fedez non ha portato il pacco regalo con 1.000 euro anche alla Martani, poverina? Lei fa la cantante del piano bar e sta con le pezze al culo da quando i piani bar hanno chiuso. Mi chiedo io perché è stata esclusa la Martani? Perché è una cretina? No, perché è una deficiente che le ha fatto cauta? Perché è una cattacazzi animalista? Perché è un ignorante a tutto campo in ogni pezzo dello scibile umano in cui tu la interpelli, Cruciani? Sì. Cerchiamo di capire perché. No, ma guarda, posso dirti una cosa, caro Francesco? Però c'è una cosa su cui lei ha ragione, sul fatto che queste norme sono ridicole, queste norme qua su Natale. Voglio capire, anche se tu invece mi dai ragione su questo, che credibilità ha una che scassa il cazzo con gli influencer 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni l'anno. Con gli influencer, appena si trova Vacchi davanti, comincia a ravanare in posti piuttosto privati. Ma che stai dicendo? Non ha ravanato su nessuno. Diffamazione, perché non è vero assolutamente. Poi comunque ho scritto un libro insieme a Massimo del Papa, abbiamo scritto un libro che si chiama Anti Influenza. Vabbè, che hai scritto un libro, che hai scritto un libro è una parola, hai scritto un libro è una parola grossa, hai messo degli appunti e poi hai dato alle stampe questa carta qui, che è diverso. Io mi chiedo, Martani, tu secondo me fai tanto la wawa sul virus, perché lo sai benissimo che puoi chiamare a raccolta tutto il popolo che vuoi, ma con la puzza di cane e di gatto che ti trovi addosso non ti si avvicina neanche il borbone che c'ho qui accanto a casa, che occupa il posto che dovrò destinare a Mauro da Mantova appena gli do il mio indirizzo. Quindi che cazzo chiami a raccolta? Quale popolo, Martani? Quale popolo stai chiamando a raccolta per fare che cosa? Ti rendi conto che sei una sciroccata che viene invitata nelle trasmissioni degli sciroccati per dire guarda quella quanto è sciroccata, almeno io non sto messo così male. Ma uno scatto di dignità nella tua esistenza che vai per i 50, ce lo vuoi avere? Ti vuoi trovare un mestiere che non sia coprirti di ridicolo su Canale 5 e davanti a Cruciani, sperando che un giorno Cruciani ti conceda quella parte del corpo che tu brami da Cruciani? Guarda, prima o poi vuoi arrivare a questa consapevolezza, lo vuoi capire che al mondo ci sono quelli che fanno le hostess per l'Italia e quelli che fanno gli epidemiologi, i virologi e gli epidemiologi. Replica di Daniela, perché sennò altrimenti no. E il silenzio ha senso, perché non posso parlare con un analfabeta come questa persona. Ma quale analfabeta? Hai detto delle cose precisissime. Come una birra incoglionita, analfabeta, non analfabeta. I quelli più forbiti sul dizionario dei sinonimi, si è andata a cercare i sinonimi forbiti sul dizionario e sta facendo il suo show. Vabbè, facciamolo fare, poverino, vedi? Il problema è che a me mi conoscono tutti e te ne conosce nessuno. Come conoscono tutti il fatto che c'ho qui vicino in piazza a casa mia, anche noi lo conosciamo lui, però lui non è che se ne vanta. Le persone, Martani, io non ti sto insultando, sei tu che ti copri di uno spesso strato di ridicolo perché ti fai imbambolare da Cruciani e pensi di avere qui una tribuna legittima in cui parlare di cose di cui non sai. Francesco, nella perché, vita c'è perché chi fa la hostess dell'Alitalia, mestiere rispettabilissimo, e c'è chi fa l'epidemiologo, il virologo, l'infettivologo, d'accordo? C'è chi fa il conduttore radiofonico, c'è chi fa. Tu non puoi improvvisarti una cosa che servono anni e anni per acquisirne competenza, hai capito, Martani? Siamo il primo paese che ha più morti nel mondo. Complimenti. E se ci fossi tu a comandare, questo sarebbe già un camposanto, questo paese. Hai capito? Non parlare di ultima cosa, fermo. Ti disturbare a prendere una laurea in medicina e una specializzazione. Fermi tutti. Scusami, Daniela, tu al posto di chi governa adesso faresti meglio per chiudere, sì? Dimmi la verità. Assolutamente. È come la Svezia, liberi tutti, tanto le mascherine non servono a niente, l'abbiamo visto, no, altrimenti i contatti sarebbero calati. Fai la fine del deputato tedesco, brava, fine del deputato tedesco, evviva. News, caro Parenzo, non è vero news, che deputato, è ricoverato per il deputato tedesco dell'Alte di Fondogia non ha il Covid. Vedremo chi ha ragione. Comunque vai in giro così. Il dato di fatto è che io sono un anno che giro e me ne sbatto di queste regole e non mi sono a beccare niente, capisci? Invece ci sono persone che continuano sarai a dire positiva, asintomatica e stai infettando magari decine di persone. Le scarpe quando entrano dentro casa e si sono infettate questi contagi non diminuiscono nonostante tutte le misure che sono state prese, la presa per il culo che continuano a farci dicendoci ma il cielo non voglia che ti ammali davvero, guarda, il cielo non voglia che ti ammali davvero, io te lo ti auguro di non ammalarti, noi vediamo fino almeno un anno, fino al 2022. Fermi tutti, ciao Dani, a presto. Il cielo non voglia. Ciao, presto. La Zanzara. Ho conosciuto un ragazzo che mi ha fatto scoprire questa trasmissione e adesso non vuole che legga il tuo libro. Sai perché? Perché sono una donzella e non un animale. Ma sentilo, io l'ho comprato. Allora scusate se arrivo in ritardo, ma beh, Gottardo non si è mai fatto pisciare in bocca perché si vede che si è sempre scopato dei cessi. Giusto. Perché fidati che quando ti scopri qualcuna che ti piace veramente tanto vuoi bere anche la sua piscia. Ma figurati, ma che roba è? Ma che roba è? Ma perché? Questo è un argomento molto interessante. Non esisterà mai questa cosa. Bere molto interessante, come no? Ma che schifo, ragazzi. forse ha ragione l'ascoltatore, cioè quando sei al top del top sessuale con qualcuno, hai voglia anche di queste robe qui. Sì, hai voglia anche di queste robe. Culo, queste robe qua, ma che c'è? Ma sto dicendo semplicemente una cosa: che il ricevere da parte dell'uomo, ricevere il pissing di una donna, anche di una donna. Ma lo escludo. Mi sembra, non lo escludi, è schifo. Adesso schifo, lo escludi. Ma è pieno di gente che chiede e dà, che chiede e dà. Ma sì, chiede vabbè, ma e dà. Pieno sì, ed è gente. Ma non contesto. No, ma è pieno di gente che ama il pissing. Ti giuro, io non contesto di gente. Ma come no? Il pissing in bocca e nel naso, come ci raccontava quell'altra sciroccata. Ma scusami un attimo, perché cosa contesti? Cioè, le voglie delle persone contesti? Non riesco a capire che cosa contesti. Proiettata su di me, io non mi farò mai pisciare. Sì, ho capito, non è che devo la donna che amerò di più in tutta la mia vita. Ma che ne sai? Non lo puoi sapere cosa ti riserva la vita. Magari tra un anno, come prima non pensavi di stare in questa trasmissione. Come prima non pensavi di separarti o di fare chissà che cosa, e magari fra due anni ti fai pisciare in faccia, ti fai pisciare in bocca. Ma me lo faccio mettere in culo? Sì, non quello è un'altra cosa. Esatto, tutto dai. è mobile, quindi. È mobile, vabbè. Crucia, sto coronavirus è tutta una minchiata. Faccio il gigolò e vedo persone tutti i giorni senza mascherina, senza un cazzo. E non ho niente, sano come un pesce, ha fatto il tampone ieri, sanissimo. Francamente lo dico con grande rispetto, le prediche dell'onorevole Serracchiani, del PD e del governo sono una triplice presa in giro. Primo, perché se stiamo in questa situazione lo si deve al fatto che il governo non ha saputo organizzare la riapertura delle scuole a settembre, i trasporti, le nuove terapie intensive in modo tempestivo. Primo. Due. Secondo, ci trattate da sudditi, siamo al 17 mattina, manca una settimana alla vigilia e ancora non sappiamo come funziona. Ma voi veramente pensate di essere il sovrano che comanda e dispone sulla vita dei cittadini? Terzo, ed è la cosa più grave, ci avete fatto una testa così per due mesi sui 21 parametri, ci avevate detto che non c'erano più decisioni politiche discrezionali, che era tutto automatico, che c'era un algoritmo, siamo diventati tutti gialli, ragione, senza dati, senza riferimento a quei 21 parametri, richiudete tutto, anzi forse sì, forse no, non si sa. Punto numero uno. I 21 parametri dicono altro, dicono che l'Italia è tutta gialla e quindi voi state prendendo una decisione che non è scientifica ma è politica e arbitraria. Secondo, falso quello che lei ha detto sulle terapie intensive. Avete fatto i bandi con 5 mesi di ritardo solo all'inizio di ottobre. Terzo, falso sulle assunzioni di medici e infermieri. Avete attivato i bandi soltanto a metà ottobre e siamo nei guai a causa di questo. Quarto, non è vero che in Germania è chiusura totale, la loro chiusura è l'equivalente della nostra zona gialla. Quinto, la Germania ridà ai commercianti, alle imprese il 75% del fatturato, non l'elemosina che date voi. Scusa, 5 punti, è passato da 3 a 5. Attenzione, Capezzone, che grande svolta di Capezzone. È passato da 3 a 5. Allora, Piero da Caltanissetta, vai, Piero da Caltanissetta. Comunque, c'è una mia amica, amante del pissing, che mi ha scritto dicendo: nessuno vorrebbe pisciare su Gottardo. Anche questo è un elemento, Questo cioè, è un elemento importante da dire. Mi dispiace, mi addolora. Pure la piscia questa, va meritata. Signora, sostiene, aggiunge anche la piscia va meritata. Vabbè, buonanotte. Questo è vero, che vada meritata è vero. È vero, però è capitato persino a me che qualche donna abbia avuto l'impulso di pisciarmi addosso e l'ho trovata una cosa piacevole, ma non in bocca. Ma non, no, dopo cioè tu stai confessando qui che ti hanno pisciato addosso, ma non in bocca. Sì. Te stai confessando. Sì, cioè tu sei passato da quello. Scusa, no, però Davide, su questa cosa qui, però va anche un po' spiegata come cosa. Lui sosteneva fino a qualche tempo fa. Ma ero a Madrid, avevo 21 anni. Cioè, tu a 21 anni ti hanno pisciato addosso, ragazzi. Mi hanno pisciato addosso. Sì, una ragazza che era nata lì. Vogliamo dire anche il cognome, non lo so. Sì, no, non me lo ricordo, se no direi anche il cognome. Perché quindi nulla. Verum ipsum factum. Dimmi Piero, dimmi. Pronto, ciao. Buonasera a tutti. Dimmi. Ascolta, io sono uscito dall'ospedale, sono un infermiere. Sì. E ho sentito la Martani dire quelle cazzate che monta. Sì. Allora, dico soltanto che io sono uscito poco fa, dopo 12 ore. Bravo, sì, appunto. che sono in pronto soccorso, sì, di un pronto soccorso. Dunque vuoi dire vergogna, vergogna, vergogna la Martani, Berco, questo vuoi? 12 ore vestito, 12 ore, mascherine, per dirti la verità sono uscito un'ora prima perché non ce la facevo più. Però scusami, cosa c'entra questo però con quello che hai detto? Non è che la Martani ha detto vaffanculo agli infermieri, ora, scusa. È come dirglielo. Volevo dire, me ne frego dei divieti, esco, è uguale. Volevo dire che fino all'anno scorso gli anziani, i nonni, i padri vecchietti venivano lasciati in ospedale e non c'era né Natale, né Capodanno, né nessuna festa. Quest'anno che c'è il discorso di stare tutti a casa per evitare questa pandemia. Stiamo diventando tutti virologi, tutti professori, tutto quello cioè che... Cioè tu stai dicendo che la gente se ne sbatteva i coglioni degli anziani, di tutto, infatti, eccetera, eccetera. E anzi, io gli stavano scorso sul cazzo anche le feste, però questo io l'anno sì, scorso, vabbè, il 24 notte, ho fatto la notte, c'erano vecchietti, un sacco di vecchietti lì in pronto soccorso. Abbandonati, senza, dici mentre tu. Gli altri andavano a sciare. Certo. Senza che telefonavamo ai figli, ai parenti, e nessuno, non posso venire, ho a che fare, sono e cena. E ora quest'anno rompono i coglioni per il discorso di no, ma non rompiamo i coglioni. Vorremmo semplicemente il permesso, se Conte vuole, se Speranza vuole, se Boccia vuole, cioè vorremmo il permesso di uscire da casa, non per uno lavoro, per una passeggiata, appunto, no, se non c'è lavoro, non per lavoro, uno sta a casa. No, vorremmo il permesso di uscire da casa. Il virus non si ferma, lo diciamo da mesi. Ma no, diciamo da mesi, appunto, fermo. La Zanzara. Gottardo, occhio, non è proprio semplice prendersi il coronavirus e dire che avendo 44 anni stai bene di salute, che non ti fai un cazzo perché la statistica dice che stronga solo quelli da 80 anni in su, capito? Occhio, perché ci stanno sempre i casi singoli, eh? Nessuno te l'ha lasciato scritto che a te non ti fa un cazzo, 2-3 starnuti e finisce la storia. Occhio, occhio a scherzare col fuoco. Io preferirei non prenderlo, visto tutte le conseguenze che porta, capito? Occhio. David, non fare come i politici, i ristori arriveranno, i soldi arriveranno. Cazzo, non arrivano, i commercianti vengono chiusi e i soldi non arrivano. Mettiteli in testa, non arrivano. PS, quando arrivano sono due spicci. Allora ragazzi, io fra poco chiamerò una persona che sostiene, caro Parenzo, si tratta di un volto noto a questa trasmissione, di una voce nota a questa trasmissione, si parla del consigliere comunale a Trieste, Fabio Tuiac, ex della Lega, il pugile, quello che faceva il pugile, il quale delle commozioni cerebrali da come parla, il quale sostiene, signor Tuiac sostiene che gli omosessuali vanno trattati come in certi paesi, diciamo che come al solito non lo dice direttamente perché non ha il coraggio di dire direttamente, dice ci sono dei paesi in cui c'è la pena di morte per l'omosessualità, e dice anche che si potrebbe anche fare come fa l'ISIS con gli omosessuali, cioè dire la soppressione, però fra poco. Prima però Stefano da Varese. Voglio ricordare ai grandi sostenitori di questa stretta di Natale, di Capodanno, che qualche tempo fa, e i contagi non è che sono si sono impennati poi, no? Perché da giorni che No. Vai a vedere i dati, non si sono impennati. O non sappiamo qualcosa oppure non si sono impennati. Ma hanno anche paura che appunto se non ci sono le restrizioni non riapri le scuole a gennaio. Il Premier Conte ci aveva detto una cena in meno, giù, le scuole giù, aperte giù, a gennaio. Tanto non posso dire niente, per cui giù. Allora, il Premier Conte ha detto in maniera chiara qualche tempo fa che i provvedimenti erano necessari per salvare il Natale. Questo certo. Dunque noi non ci crediamo più a queste puttanate. Ma adesso c'è l'inizio della campagna vaccinale, Stefano D'Avarese. Come cosa c'entra? Ma non c'entra niente con i provvedimenti già... adesso. Stefano D'Avarese, dai. Ma la situazione di adesso è diversa da quella di due mesi fa. Guarda. No, ma scusate, ragionate un secondo. Oggi è diverso da qualche mese fa. Stefano, vai. Perché sta arrivando il vaccino a fine dicembre. Parenzo, gentilmente mi faresti parlare? Sì, però non sapere che la situazione è diversa è una stronzata. Stefano, vai, dimmi. Ok, il vaccino. Cruzzani, ti parlo, ti chiamo perché devo dire una cosa a Parenzo. Poi se volete nome e cognome io ve lo lascio. Dimmi. Io sono insieme a una ragazza della Costa d'Avorio da 2 anni, una bimba bellissima con lei. Niente, vorrei dire a Parenzo che in Costa d'Avorio non c'è la guerra. Tutti quelli che vengono col barcone vengono qua perché vogliono, loro pensano che qua ogni volta che scorreggi ti danno un euro o 100 euro. Lei è venuta qua 10 anni fa. Quindi anche la tua fidanzata è venuta per quello. Beh, devi dovresti essere felice che è venuta, però. È venuta qui, si è fatta il culo. Ma dovresti essere felice, appunto. Grazie al fatto che lei è arrivata qua, tu hai trovato l'amore. Quindi... No, non dire cazzate. Suo fratello. No, è la tua fidanzata, hai detto, mica l'ho detto io. Suo fratello faccia lo stilista là. Perché qua gli dicono che può avere tutte le donne che vuole. Di qua quindi per quello è venuto qua. Se n'è andato in Libia e sta aspettando il barcone per venire qua. Quindi non dire cazzate. Là la storia fa un po' acqua da tutte le parti. No, fa acqua per niente. Ti dico come mi chiamo. Sai cos'è che fa acqua da tutte le parti? Tu hai questa fidanzata della Costa d'Avorio, sarà probabilmente vero. C'è una bimba insieme a lei, si chiama Eloisa. La cosa un po' strana è però il fratello della moglie, giusto? Quindi sarebbe tuo cognato, corretto? Non siamo sposati, conviviamo. No, a Puglio, vabbè, faccio per dire per comodità, cognato. No, ma insomma, lei ha 4-5 fratelli. Lui pensa di venire qua perché ci sono i soldi. Là non c'è la pensa guerra. Di venire qua perché in Italia si sta meglio che in Costa d'Avorio, evidentemente. Lui ci ha messo 10 anni a portare qua suo figlio. Le migrazioni nascono anche da quello. Uno cerca di migliorare la propria condizione. Che? Uno va dal nord a sud. Aspetta, fermo. I cubani vanno a Miami, ad esempio. Chi è che ha strillato dietro? Qualcuno ha fatto intervenire. Vabbè, comunque sono tutte cazzate, non vengono qua con la guerra. Là non no, ma scusami, i cubani vanno a Miami perché pensano di stare bene a Miami, no? Accogliamo tutti fino all'infinito. Ma devi accogliere tutti, tutti ma quelli perché che hanno voglia di venire ma qui. Ma io vedo tutti. La gente non è che da Miami si trasferisce a Cuba. Chiamiamo succede Tuyak. Viceversa, no? Chiamiamo perché Tuyak. Infatti la gente sta meglio a Miami. Infatti là ci sono i picchetti con i fucili. E la gente sta meglio a Miami, però. E nonostante questo l'immigrazione c'è stata, però, no? Dei cubani che vanno a vivere a Miami. Mamma ma come che un principio molto chiama semplice. Tuyak, la gente scappa da situazioni non comode. Sì, pronto. Tuyak? Sì. Come andiamo? Ah, cavolo, sempre voi, ma mi chiamate sempre quando c'è il consiglio comunale. E io adesso qua. Ma che ti frega del consiglio comunale a te? No, che ti frega? No, qua siamo in diretta. Scusami, però, Tuyak, scusa un attimo, sì. ma hai detto che l'ISIS, vuoi che l'ISIS getti giù dai palazzi froci? Com'è possibile? Mamma mia. No, ho detto questo, ma quello devi sapere che in quasi tutti i paesi africani islamici c'è la pena di morte, più di un terzo degli stati sovrani del mondo c'è la pena di morte per gli omosessuali, per questo diamo la protezione internazionale. Tu li chiami froci. Si chiama così, no, sono froci. Si chiamano tra di loro, va bene, per me va benissimo. Ma si permette? No, vabbè, chiamali come vuoi, però i musulmani trovano ancora la pena di morte. Sì. Proci, e tu sei d'accordo? Noi da un punto di vista del religione eravamo fino alla rivoluzione francese, i cattolici. Sì, ma tu hai scritto, tu sei un maledetto. Tu sei un maledetto. Il sacro romano fatto quello che ha fatto Hitler, l'hanno fatto tutti i cattolici fino a non molto tempo prima. Però da lì sapere, a me piace di più Stalin. Stalin ha fatto fuori uguale. Tu sei un maledetto. Scusa, hai detto anche che mi va bene anche l'ISIS che li getta giù dai palazzi. L'hai detto tu quello. Tu questo succede nei paesi islamici, per questo diamo la protezione. No, hai detto che l'ISIS. Hai detto che l'ISIS. Non sono froci, sono però vengono qua il cimbato, noi diamo la protezione internazionale a loro, perché se dicono froci ma non passiamo i test per vedere se sono froci. Perché per te andrebbe fatto il test? Per te andrebbe fatto il test? Per me dovrebbe fare un test, perché gli assassini per me la passano pietra, erano qua perché si sono detti froci. In Italia c'è la pena di morte. Ma non è vero, ma non è vero. Dunque, è vero! Ma, no, ma l'ISIS, no, l'ISIS, hai detto... Perché froci. Ma sì, d'accordo, lei hai detto... Però non erano froci, bisogna fare un test, perché hanno diventato una ragazzina e l'hanno fatta a pezzi. Scusami un attimo, scusami. Maledetto. Hai detto che anche l'ISIS, ciao. Hai detto che anche lì vuoi l'ISIS. You look so good when you get out. Incredibile, ragazzi. Stalin ne ha fatti fuori tanti. Stalin. È entrata la bora nel cervello. Stalin ne ha fatti. E anche un piccolo accenno al signorita. Costui è consigliere comunale. Consigliere comunale. Veramente un criminale. Allora, ragazzi, dove andiamo? Dove andiamo? Diego da Vicenza, vai. Diego da Vicenza, vai. Diego, sì, avanti. Ciao a tutti, sono Diego da Vicenza. Io sono un coordinatore infermieristico di un reparto di COVID. Sì. No, meno male. Sì. Allora, io volevo parlare con Gottardo. Vi do le date di nascita dei miei 18 pazienti. Sì, ok. Sì. 56, 55, 64, 78, 40, 50, 52, 40. 51, 41, 51. 37, sì. 2 pazienti, 53 in media e 47. In media 70 anni. Aspetta, aspetta, aspetta. Semitensivo 70 anni. Con cosa vuol dire? Aspetta, mi fai ragazza, sentire? Con la ragazza del 64 che adesso me la stavano trasferendo in rianimazione, ok? Quindi cosa vuoi dire con questo elenco? Non invasiva, che non c'è, ad ragazza, una ventilazione invasiva. Ragazza. Io volevo dire al signor Gottardo che quando si parla di volersi prendere il COVID, sì, appunto, deve sperare che il COVID nel suo fisico, ok, non viri male, esatto. Perché dopo, se dovesse disgraziatamente andare male, dovrà sopportare H24 amico, una ventilazione amico, non invasiva amico, che non è per niente avuta, piacevole. Ho avuto un trombo settico ai polmoni. Ok, quindi allora vuoi tornare in un letto di rianimazione o di terapia? Sì, no, non voglio tornare, ma non ho paura. Non ho paura. Ma non dovete fare malinformazione. Giù tutti tranne Diego. Allora, voglio dire a Diego una cosa. Va benissimo l'elenco. Ma c'ha ragione, Diego. Quello è il mi fate dato. Parlare con Diego. È mancanza di rispetto. Mi fate parlare con Diego. Diego e quelle persone mi che fate sono parlare là, con Diego. Non c'entra niente. Hanno età diverse. Allora, come Diego, no? Voi siete egoisti. Oh, ragazzi, giù tutti tranne Diego. Allora, Diego, voglio parlare con te. Va benissimo l'elenco che hai fatto, però è il tuo reparto quello là, eh? Non è la statistica sì, è italiana. Il mio reparto. Non è la statistica. Parlo con i colleghi di Padova. Non è la statistica la né italiana né bella. Parlo con i colleghi di Verona. Noi stiamo parlando della cosa. Noi stiamo parlando della mortalità. Stiamo parlando della certo. Abbiamo sempre parlato di mortalità. Sono persone che si vedono la morte in faccia. Ma che anche ti chiedono un goccio d'acqua quando entri dentro e ti pregano di dargliela. Sono pazienti che anch'io e dunque, sono stato dunque cosa vuol dire? Scusami Diego, quando sono entrato non mi sono mai cagato allora, addosso. Non c'è ma che vuol non dire? C'è tu hai niente. Avuto un incidente, che cazzo vuol dire? Può capitare, no, quella, ma la malattia è evitabile, la malattia è evitabile con degli accorgimenti. Ragazzo, è evitabile non facendo la cena di Natale. È la condizione ma della vita. Allora Diego, o l'egoismo di chi vuole girare in vacanza per morire, ok? Scusami, gli ospedali sono in tilt, il sistema sanitario è in tilt. Diego, il plasma iperimmune, il plasma iperimmune si è dimostrato pressoché inefficace, ok? Sì, sì. Il benedetto cortisone di cui parlavate prima è ancora la terapia dell'elezione, d'accordo? Assieme alle farine a basso peso specifico. Per cui però, scusami, non è un virus, Diego, del Diego, cazzo, Diego, non è una scampagnata, Cruciani, no, ma nessuno dice che è una scampagnata. Io sto dicendo però un'altra cosa. Le statistiche servono perché altrimenti no, di che parliamo? Allora, la cosa reale è che la media dei morti di età è di 79, è rotti adesso 79 e 6, 79 e 7. Sono nonni genitori, padri di famiglia, certo, che potrebbero dare ancora tantissimo la notte. Ma chi dice il contrario? Non sto dicendo che devono morire, sto dicendo semplicemente che con degli accorgimenti, cioè dire con le misure che abbiamo già adottato, non uscendo durante le vacanze, ma chi l'ha detto? Andando a mangiare a casa di altri come i topi. Ascoltate Diego, però scusami Diego, il vostro egoismo di fare una cenetta. Ho dei colleghi, gente di 27-30 anni, dei colleghi che sono sfiniti. Scusami Diego, però scusami, scusami un attimo, voglio capire una cosa. Se io posso andare oggi, se io posso andare oggi a fare un pranzo con chi cazzo mi pare a casa e non lo posso fare il 25 e 26, che differenza c'è? Me la devi spiegare tu. Che differenza c'è tra fare oggi un pranzo con 7 persone che lo puoi fare e, no, e farlo il 25? Me lo spieghi tu, Diego? Perché siamo italiani. Ma ecco, allora arriviamo a questo. Lo puoi fare il 4, probabilmente lo potrai fare il 4 gennaio o il 7 gennaio, ma non lo puoi fare il 26. Questa è la grande regola. Lo puoi fare probabilmente il 7 gennaio, ma non lo puoi fare il 25 e 26. No, ma è un discorso di cultura italiana, cultura italiana. Ma no, anche il 24 e 25 è ovvio che la gente vorrebbe fare quello, no? Ma è evidente. E invece ma dopo non lo farà, prima ma lo non sta lo facendo. Farà, lo faranno in meno. Io non ho visto tavolate da 12 persone. Aspetta, adesso lì, in Diego, giro. Massimo da Genova, Massimo da Genova, tu vivi in un mondo surreale, Massimo. Dimmi. Sì, io vivo in un mondo surreale. Lui è Massimo, l'egoista, dimmi, che invece Massimo, dimmi. Questi in terapia intensiva, lui vuole farsi la cenetta con qualcuno. Massimo, dimmi. Pensa a te, per è una legittimo, volta. È legittimo, eh. Massimo, è legittimo dimmi. Voler egoisti? È legittimo voler vivere. Giù, Massimo, ma io anche voler vivo. Vivere. Massimo. Tutti vivono, anch'io voglio vivere. C'è o non c'è Massimo? Non ho capito. Io ho capito, Diego, bravo, ho capito. L'età Diego è un manifesto. L'età di chi detto. Muore. E non è il governo, Diego. Voglio sapere l'età di chi muore. È uno che lavora là. L'età di chi muore, tu vedi i pazienti. Giù. Muoiono quelli sopra i 75 anni, quelli muoiono. Fermi per tutti. Carità, ciao, ciao, ciao Diego. Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8. Ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.